La Buonasera. diretta sei tu. Ok. D'accordo, sì. Buonasera. Buonasera. Siamo tutti Buonasera. per la stagione 2, episodio 1 di Zeros, Attenzione. che si intitola 00 Zeros. E questo perché questa stagione cambiamo genere. Prima era un superhero movie, mentre adesso sarà uno spy movie. Ok, mi La piace. prossima cambieremo ancora, cioè la terza stagione potrebbe essere anche un horror, non so, vediamo. Ah, ho Sarà capito. Mi piace questa cosa, la Black Mirror. Ci sta. incredibile. Non ho mai visto Black Mirror. Comunque, Aveva ti perso giuro che per un po' l'unico ti... Vabbè. spettatore che c'è rimasto Allora, questa battuta. sigla? No, non ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo un cazzo. Facciamo in diretta, Giampe. Ehi, ciao. Tanto Iscriviti. No, Visto che è un buon movie, Giampe, devi farci tutte quelle sigle strane alla Bond. Fai tipo una donna che cade nel vuoto, una pistola. Faccio Giampe che cade nel vuoto e uno che gli spara al volo, tipo pull. Mi aspetto che tu muoia. Tutti a rallenti così. Vabbè, questa è 00 Zeros, ma la prossima sarà tipo Live and Let boh, Zeros 2000, Kryptonite tipo Fantozzi 2000, però con il... Va bene, dicevo, volete fare prima il riassunto oppure i due Viene babbuini prima il nuovi riassunto, mi secondo me. dicono che cosa hanno preso con gli exp dell'altra volta? Allora, Gian, facciamo presto perché non li ha spesi. In realtà la riduzione del difetto, in realtà non Guarda, voglio non me tenere ne perché... frega niente. Niente, così ti voglio. Direbbe Luca. severo ma giusto. Luca, Luca. Sì, dimmi, scusami. Come hai speso Quante quella exp l'avevo puntalata di preso? exp che Ah sì, non allora, io mi ero ti ricordo? segnati 110, ho aumentato il dado controllo di 6 a di 10 e poi... Ho tolto il difetto da fortuna e da No, superforza forse non l'ho preso. e ho Il preso legame difetto. distante Perché già ne avevo presi prima. che mi fa usare il potere anche se non tocco il mio libro di Russell, ma fino a quanto resto a 30 metri e mi Va restano bene. 5 XP. Ok. Perfetto. Allora, E intanto c'ho mi devi... 2000 exp. Ho 2000 exp da spendere, tipo. 2000 sono Peter. tipo... Avrai tipo 100, immagino, però. No, Ora, sì, a livello sì. 5 sono 110 punti 110. esperienza in Ma tutto, quindi... sto male! Però tu ne 70. avevi Sì, c'erano 45 da quindi la utilizzare. differenza. Vabbè, neanche. Una sessantina. Va bene. Comunque. Allora, intanto... mi volevo dire... Quando avete distrutto il tempio nell'isola... Avete Ok. usato... un portale di Edo per tornare a casa. Tu puoi portare più di una persona adesso, Sì. Cioè, no? Ah, ok. nel senso devono passare uno alla volta, però sì. Dopodiché è successa una cosa. Allora, Janf è tornato a casa, San Benedetto. Luca pure, però a Martin sicuro. Gli altri tre sono Esatto. rimasti a Bologna. E cosa gli è successo il giorno Ok. dopo a Bologna? Ah, il giorno dopo, Vediamo non noi. è tipo la settimana dopo? No. No, sì, una settimana dopo a Bologna. La settimana dopo. Bravo. Niente, è successo il casotto. Allora, praticamente ne stavo andando in giro per Bologna a fare tipo cose, cioè tipo che ne so, in banca, fare spesa, così. E è scattato l'allarme di Sanctuary. Siamo arrivati, tipo, sono arrivato io per primo, ma praticamente nel giro di un minuto anche Edo e Marco. E c'era Vez che stava cercando. No, scusa, era Giulio che cercava di entrare, diciamo, sotto nella parte sotterranea, la Privata del parte privata interessante. Il barista mi sa che era già tipo a terra e. Sì. La porta c'era un buco dentro, cioè al posto della serratura c'era un buco. Ah. E niente, poi abbiamo un po' chiacchierato, abbiamo parlato, ci siamo un po' detti alcune cose, diciamo, zozze. Ci siamo un po' insultati. E niente, poi abbiamo, cioè, mentre stavamo lì a parlare, a spiegare un po' cosa era successo, i poteri, eccetera, è apparso un messaggio in televisione che diceva tipo... aspetta, cos'è che diceva? Sapete quello che voglio, portatemi... Sì, c'era... Sì, cioè, sì, in realtà sì. c'era prima il resoconto di un'esplosione. Esatto, cioè prima dell'esplosione. Ah, è vero, prima dell'esplosione. E... cos'era esploso? Cos'è tipo mezza Bologna. Cosa non è esploso? No, cos'è imploso, perché niente è esploso. Ah, giustamente. Cos'è imploso? Niente, tipo... un bel pezzo di Santo Stefano, no? Esatto, la zona Santo Stefano e dintorni. Ciao, tipo ciao. Da Santo Stefano ai Giardini Margherita, ricordo bene. Sì, un po' più avanti, sì. Però sì. E diciamo che c'era sto tizio, cioè nel senso... c'era un po' di panico, poi c'è sto tizio... C'era un buco, diciamo, c'era un bel buco. Un buco. Sì, dove c'era strada... Nel buco c'era panico. Praticamente il ricatto era che quello che ha reclamato l'esplosione ha detto che avrebbe fatto esplodere altra roba se non gli aveste portato, ho beccato i verbi, forse no, vabbè, ah, forse c'è preso, direi che c'è preso quello che voi sapete nel posto dove vi eravate già scontrati con lui. Giusto? Sì. Esatto. Tutto molto vago. Alla fine si è scoperto che noi avevamo metà del puzzle, mentre l'altro gruppo, gli Unstructured Heroes, avevano l'altra metà. Noi avevamo la pietra recuperata nell'isola e gli Unstructured Heroes conoscevano il luogo del precedente scontro. Tra l'altro la pietra Edoardo l'aveva ficcata in un portale, quindi era... Ok. Era accessibile e nascosta. Esatto. Va bene. E niente, dopo averli scoperti nel nostro covo segreto, abbiamo deciso per almeno un'alleanza temporanea per risolvere la situazione e ci siamo subito diretti a Firenze, se ricordo bene. Sì, vicino a Firenze. Vicino a Firenze. Dove verso sera ci siamo... siamo giunti a un magazzino che a quanto pare l'altro gruppo aveva già... un magazzino, è proprio un edificio, cioè proprio un edificio, una sorta di... cioè una base vera e propria, c'avevano il garage, c'avevano le stanze. Uffici, sì. Sì. Ma la macchina con cui siamo andati aveva le catene, Salla? Aveva un dettaglio importante questo. Non so, non ci sono andato, ero malato. Esolato. E niente, poi Marco ha fatto un'ottima strategia per entrare in questo posto. Però non è andata esattamente. Cioè, l'esecuzione riescono con la ciambella. Vabbè, allora cioè, Marco aveva preparato la ciambella. No. Intanto avete splittato il gruppo. Che però non è stata un'idea così stupida alla fine. E non come le altre. Quindi metà gruppo nel pian terreno e l'altra metà nell'entrata nel seminterrato e l'altra metà nell'entrata principale. Esatto. Un gruppo doveva fungere da diversivo, l'altro gruppo doveva essere la squadra alfa, mamma orso, e penetrare in profondità nelle linee nemiche. Stiamo parlando sempre più volte. In che senso dobbiamo penetrare? Vabbè. Non uso mai a caso questo verbo quando sono con voi, capito? Certo, va bene. E proprio questo è pericoloso. Il piano, Dio, non è andato proprio alla perfezione, liscio come l'olio, dai. Vabbè, diciamo che vi siete legnati tutti voi, e più o meno bene. Bisogna quasi perso un braccio, ma va bene. Bisogna notare alcuni eventi abbastanza, nel senso, alcune scene abbastanza importanti. Primo, c'è stato il raggio superatomico di Jacopo che ha tranciato a metà una persona praticamente. Poi Jacopo è stato fucilato. Esatto. Dai, quelli dai. Un cose di contorno. Di poi, no. Vabbè, poi modestamente ci sono stato io che a quanto pare ho disabilitato un Heroes togliendogli il casco per sbaglio, però è successo. Baby Driver. Il casco da motociclista nel quale stava ascoltando la musica classica e dopo praticamente l'abbiamo trucidato sì. Davanti. Se vi interessa l'ultimo, la puntata ma... online presto, potrete riascoltarlo. Ultimo, ma non per importanza, direi che è stato il nostro Edo che con un fucile di precisione da circa 5 centimetri di distanza, sicuro di non sbagliare esattamente alla distanza di tipo 30 centimetri da lui, ha fatto saltare la testa a quello che, da quanto abbiamo capito, presupponiamo fosse il professore, anzi la professoressa. Sì. Una cioè, donna che aveva quindi... l'anello del cartomante, le cartomancien, se qualcuno è curioso di sapere come si dice in francese. Non avete nessuna idea di cosa c'è. Non l'abbiamo mai saputo. Insomma, avete visto, avete sconfitto questo professore, che in realtà era una donna. Mm. E professora. A professora, sì. E avete visto che l'oggetto con cui ha causato l'esplosione era questo anello rosso che ora è in mano degli altri. Quindi è un anello magico? Dobbiamo andarlo a prendere immediatamente. Sì, però è toscano, quindi è brutto e cattivo. Sì, però ce l'hanno gli altri, quindi boh, del conte picchiare per me. Del conte. Sì, Civil War. Uccidiamoli tutti, l'anello. E dopodiché siete tornati ognuno a casa propria. Cioè io sono andato in ospedale, mi sa. Giusto, eri fuori. Un braccio è stato sparato. E insomma siete rimasti con gli altri, sì. E di tenere nascosto tutto questo e lasciare che si calmino le acque. Cioè... Dici i nostri pluri omicidi, esatto. Sembra una buona idea di tenerli. Esatto. Magari non mettiamo l'adesivo sull'auto, ho ucciso più persone, chiedimi come. Questo è Giulio. Vabbè, chiedimi se omicidio a bordo. Ma sono omicidio a fin di te, dai. A questo punto è il 12 agosto 2017 ed è un sabato e mi dovreste dire cosa avete fatto in questi 5 mesi. Mm-hmm. Se volete dirmi cosa avete fatto subito dopo, oppure una alla volta potete dirmi cosa avete fatto. Vabbè, io visto che avevo speso milioni di euro in quel cazzo di abbonamento per fare, capito, le solite al poligono di tiro. E niente, sono diventato tipo shooter, c'ho tipo una cazzo di mira assurda. Quindi tu hai passato del tempo a allenarti con la pistola. Sì, anche. Mm-hmm. E ho abbandonato la palestra. Perché ho detto no. Cioè, palestra? Che me ne... okay. No, la palestra no. Ah, non l'hai fatto. L'ho abbandonata. Palestra. Prima volevo fare. No, sono onesto. Cioè, volevo fare palestra, ma poi ho detto meglio le pistole. E niente, poi mi sono dedicato comunque a aggiornarmi un po' sui problemi del mondo. Ho cercato un po' di scoprire qualcosa. Cioè, hai letto il giornale? Ma sì, ho letto il giornale semplicemente. Vabbè. Ogni mattina. Vabbè, se ci sono delle novità io le so perché mi informo. Sì, va bene, ci sta. Oggi è uscito Telegram X, se vi interessa. Un gran chi sei. Che oggi comunque è agosto 2017. Dopo aver affrontato tutte queste disavventure, sì. Mi sono fatto anche tipo dei corsi online, quindi mo mi scalo qualche soldo in base a quando tu li dai, tipo di sopravvivenza, tipo alla stile Bear Grylls. Ma nel senso tipo in come te uscite su YouTube oppure... No, comprate un pesce. e poi niente, mi sono anche informato un po' sul questo dovevo chiedere a te, questa era una cosa seria. Il corso online di sopravvivenza cos'è? Hai guardato Human Safari tipo? Vabbè, mi sono scrive abbonamento per Grills, esatto, oppure National Geographic, ho fatto l'abbonamento lì. Dopodiché e come altra cosa invece seria, Era se io mi volevo informare un po' su, tipo, insomma, vedendo questo mondo intorno a noi, pieno di supereroi e cattivoni, di capire un po' più come fun potevano funzionare i poteri. Cioè, non so se, Non ho come capito. dire, io... C'hai 60 punti esperienza da usare, usali. Sì. Per esempio, Tra le cose, no, io intendevo tipo, cioè, nel senso, uno può dire, come, non so spiegarlo, cioè, senza sembrare, praticamente sembra citare, vorrei lui saper fare. vuole un libro che, sugli Urbaniros in cui sono descritti i Esatto, un maggiori manuale di Urbaniros, i loro Urbaniros. poteri, un manuale, insomma. Il Vabbè, manuale insomma, di Urbaniros. fai delle ricerche Madonna. sugli Heroes. Esatto. Va bene. Se, quali possono essere le mutazioni, cosa può diventare e se effettivamente avere questi poteri può portare tipo a una morte, perché tipo utilizziamo le nostre cellule troppo rapidamente, cazzi Va bene. ammazzi. E Tipo. basta, 5 mesi fai queste cose qua. Diciamo, E vabbè, beh, poi. mangi, bevi, dormi, però ci E siamo. vi faccio le seghe 2 volte al giorno, Ci siamo. ovviamente. Ovviamente Adesso. mai. Non sia mai che Appena. si salti quella delle 5 perché. A scherzare, quella è la più Tutte delle importante. La più 5. Alle 5 di mattina, poi. Mentre la svegli apposta. C'è tranquillità. Ok, dopo di jump. Prego, andate. Marco. Vado Edo. io. Ok. Mi sono preso un po' di tempo per, diciamo, ristabilirmi, anche, cioè, soprattutto a livello psicologico, perché Voi diciamo che devo un ferite, po'. no? No, mi sembra di no, no. No, credo, lo so No, meglio. direi di no. Cavolo. Però diciamo che prima gli eventi dell'isola, poi gli eventi, diciamo che Vincenzo. mi hanno un po' destabilizzato psicologicamente, quindi mi sono preso un periodo di riposo, diciamo, a casa, così. Ho cercato di riprendere un po' lo studio con scarsi risultati, la palestra, Palestra, sì. e sì. Sì. Poi boh, niente, cioè, diciamo, ho cercato di fare roba tranquilla, di non stressarmi troppo e riprendermi un po' dagli avvenimenti. Va bene. Poi? Io ho investito in Bitcoin, sono diventato miliardario. Certo. Tra l'altro nel 2017 costa comunque abbastanza. No, allora, Beh, no, agosto potevi ancora guadagnare qualcosa, dai. no, se cominciavo all'inizio subito e poi vendevo agosto, sì. No, realisticamente i primi 2 mesi, siccome avevo il braccio che stava tipo a meno 40, il braccio destro, Sì. i primi 2 mesi ho cercato di guarire dalle ferite, di non sforzare mai In il che modo? braccio e di riprendermi anche psicologicamente dalla batosta. Allora, il Però braccio è poi. stato guarito da Katta. Ah, ok, ma guarito subito oppure tipo guarito più Guarito velocemente? Ah, subito. subito. Ah, Ah, sì. ok. Ma chi è questo? È che loro Comunque mi hanno, gli prendo altri un hanno mese. l'healer. Ah, cioè puoi curare gli altri, Il non come danno Marco psicologico te che. lo tieni tutto. Oh, io sono genetico, non divino, cosa volete? Il danno psicologico è nel senso, cioè mi Sembra una prendo un mese scusa. per cercare di recuperare almeno, non Ok. so. Uno o 2 punti psiche a seconda di quanto. Ma Quindi quindi ci tu, vuole un Marco, se giorno di riposo per ma vuoi recuperare un andare punto psiche, anche da penso uno che. psicologo oppure fai solo riposo Sì, puro? cioè, vado da uno psicologo senza dirgli magari dettagli, cioè, cerco Ok. di recuperare. Anche perché la componente, cioè, il difetto di entrambi. Sì, il difetto di entrambi i poteri è depressione, quindi magari Quindi. per aiutare in futuro quel difetto. Tra l'altro, noi abbiamo preso esperienza per Infinity War? No, mi sa di no. No, perché ci aveva dato già il boost Sta a livello di soldi. 5 Ah, maiali. Hai tanto ok. Vabbè, dai, è chiedi. bello salire un po' più velocemente. Che cazzo fa Ah, 10 dimenticavo una punti a cosa. sessione per arrivare al massimo, che sono 1200, devi fare 120 sessioni? Troia. Non ho capito Dimenticavo qual è il ogni. problema. Dimmi. Scusa, in D&D a che livello siamo? No, per capire. Dalla Eccola là. No. prossima, dalla prossima, si sa, set, siamo rallentati. Io chiedo. Adesso vedete la prossima. C'è una certa rivalità, Sento un po' di tensione sessuale Come qui. guarda quando si vede bene Marco? Ma che cazzo è fotocamera top che c'è, Ragazzi, è Marco? Surface Pro o il Sì. Lenovo, non lo so. Quando sei. No, è Surface, è Surface. E quando sei bello. Lo so, grazie. Dicevo che nel frattempo ho cercato, diciamo, di cioè non di perfezionare, comunque di essermi allenato anche col potere, cioè nel senso esatto, io stavo per dire la flavor, stessa non cosa. per non voglio fare lo job della situazione, giusto flavor, nel senso Esatto, continuo a lo usare il potere psicologo e poi che per altro? negli altri 4 mesi ho trovato, se posso, un posto tipo o qui dietro, zona Colli Sud, oppure tipo verso Fiera, un posto abbandonato per esercitarmi con i raggi. Va bene. Cioè, un posto molto abbandonato, nel senso tipo Di un... notte si vede tipo rave in aria Esatto. No, dentro un sotterraneo, un magazzino, qualcosa di abbandonato. Le Le fogne di Bologna, dove ho visto passare un gruppo di avventurieri inseguiti da uno strano Va essere. bene. Ricordo, Poi... dobbiamo fare tipo che una di queste prove c'ero io con uno specchio in mano, giusto per vedere se funziona. E sei Vai, morto. colpisci, colpisci. E quindi mi sono esercitato soprattutto con i razzi, cioè così, con i razzi, con i raggi per la mira. Abbiamo un lanciarazzi, quindi potremmo esercitarci anche con i razzi se volessimo. Non Beh, non ne rimarrebbero molti. ne rimarrebbero tanti. Forse. Poi mi sono esercitato un po' con cioè, mazzolamenti per difesa corpo a corpo. E pronto soccorso, che già un po' avevo, cioè avevo esperienza su nell'isola, sull'isola. Basta. Corpo a corpo con cosa? Io ho il mazzolatore, il bastone e il coltello, cioè il manganello e il coltello, cioè. Scusate, ma quindi mi avete zaffato malamente il mio fucile da cecchino e il mio lanciarazzi? Con il lanciarazzi non No, credo. Li lanciarazzi abbiamo no. messi Cioè, nell'inventario comune del ti ha intascato Sentry, tutto. Luca, I dai. lanciarazzi non l'hanno usato. Il fucile da cecchino sì. Ok, Oh, ma se poi il volete potevo sparare a 30 centimetri come lanciarazzi, cioè, nel senso, per me non c'è problema. No, no, dico, Non c'è poi problema. sarà rimesso a posto dove il proprietario lo può riprendere, spero. In realtà no, È perché l'ha messo in un difficile. portale, quindi tu non ci puoi arrivare, però. Tanti saluti, adios. No, ma tanto, scusa, nel senso, tu l'avevi messo nel Sanctuary, ma tu stesso non me l'hai detto, che te cambia? Se sta Sì, nel no. portale Ma ovviamente. metti che San Benedetto abbia No, bisogno di un lanciarazzi, io non sto a dove San come fa? Benedetto, io sto a Martinsicuro e non c'è Appunto, un posto scusa. più. Non c'è un Esatto. posto in cui serva più un fucile a cecchino che a Martinsicuro, quindi. Anche dove lanciarazzi, però. Ok. Comunque, sala, io avevo proprio corso d'autodifesa Sì, non ho come. capito una cosa. Va, autodifesa, però lo fai con le mani. Sì, vuoi usare il manganello e il Ah, coltello, ok. o il manganello e il coltello, tutte e due, è diverso. Allora, Seghe. seghe. No, Seghe. vabbè, dai, mi esercito un po' con il manganello e basta. Ci sta. Poi, chi manca? Marco o Vado Luca? io? Marco. Vado io o va prima Luca, come vuoi? Come vuoi? Va bene, vado io. E allora, io giusto per rispettare le regole, allora ho riassegnato fino ai 110 dei punti esperienza, quello lì, perché c'era scritto che non potevo prendere. Dai! Non mi Quindi, alla interessa. fine, lo so, sto stressante, lo so, ma mi annoiavo oggi. E No, ma è quindi giusto ho però il cambiato. cazzo. Ok, va bene, allora come sai ho cambiato il potere secondario con Sì. quell'invincibile, però ho preso anche Non con ho i capito punti la esperienza. locazione, però non mi ricordo. Con i punti esperienza non importa perché ho preso copertura totale, quindi tutto Tutto invincibile. per arrivare a 110, intendo. Va bene. Ci può stare? Non so cosa sia Ah, copertura totale, ma penso di sì. mi dà fastidio quando citi, perché di solito è lui quello Ecco, che cita. copri tutte le locazioni, costa 25. Va bene. E avrei preso anche un potere terziario che mi erano rimasti tipo 36 punti esperienza. E Ma sei sicuro? sarebbe anche e anch'io avrei preso super forza, perché volevo essere un po' più utile in battaglia, sinceramente. Non ho ancora tirato il difetto, però, perché aspettavo ci fossimo tutti quindi. Effettivamente ci serve un curatore, però io non posso prenderlo, mi sa, potere. Faccio io. Quindi. Non lo so. Ti curo Quindi, di se vuoi, tiro qua. adesso il difetto per super forza. Ah, anche io devo trovare, devo tirare il difetto per campo di forza. Io c'ho un difetto che non mi ricordo. Sto male. Super forza, vai, tira. Dai, non 8 però, per favore. Ah, anche quella l'avrei presa permanente, tanto per... Ho fatto 8 anch'io. Perfetto. Complimenti. Questa è brutta, 8 anch'io. Mi è piaciuto come ho detto, questo è uno spy movie e tutti adesso prendono roba per picchiare. Vai, vai, dimmi. Lo so, io... Poi, quello che ho fatto invece era principalmente due cose. Una è allenarmi di brutto, visto che ho visto che la mia utilità in battaglia era abbastanza limitata, allenarmi di brutto con il corpo a corpo, per poter essere sempre pronto a entrare in azione. Trovo tipo un corso di Krav Maga da qualche parte. Sì, l'ho ritrovato. E ci do dentro di brutto. Quindi le tue fattezze mostruose non ce le hai più? No, ce le ho. Sono tipo... C'è anche il difetto pelle invincibile, fattezze mostruose. Esatto, fattezze mostruose di pelle invincibile. Allora non hai più le mani orrende, ma hai le mani adesso tipo metallo. Cioè se fai che rimangano anche le mani orrende, perché ho visto che secondo me sono orrende, può essere piedi e mani. Secondo me sono orrende perché sono metalliche. Sì, sono tipo, hanno tipo le nocche rinforzate o qualcosa del genere. Figo. Tipo un Hellboy, ma metallo, tipo sì. Esatto. Però volevo tipo fare che il potere si attivava adesso quando ricominciavamo a fare cose impegnative, non durante i 5 mesi di inattività. Va bene. Perché tanto alla fine non cambia più. Quindi corpo a corpo. E corpo a corpo e seconda cosa, io tecnicamente sarei dipendente dalla sostanza Z, di come si chiama, dal fattore Z. Sì. Volevo cercare di curarmi e risolvere almeno un po' la dipendenza, perché ho detto che il metadone esatto, è il metadone per il fattore Z, la coca. Poi? Allora, ho cercato sul manuale, non ci ho capito benissimo dove mettere. C'è tipo scritto che puoi fare dei tiri andando da uno psicologo e ti puoi aiutare a recuperare. Ci penso io, dimmi che altro. Ok. Principalmente questo, direi. Basta. Volevo concentrarmi ovviamente. Quanto altro posso fare? Perché io ho pensato questo. Come volete, avete 5 mesi di tempo. Ovviamente più roba fate, meno la roba influirà. Infatti io volevo fare poco, ma concentrarmi molto su queste cose qua. Va bene. Posso aggiungere due particolari veloci? Che avevo trovato un rubino che vado a cambiare, e quindi mi prendo i 30.000 i 3.000 dollari che valeva. Vediamo. Ho un rubino. Cioè anche qui hai le cose preziose nel Vediamo divento. Se ti prendi 3.000 dollari, però poi... No, aspetta, dobbiamo contrattare, giusto. Facciamo 3.000 euro, così divento 3.000 dollari. Fammi un tiro su sociale. Porca miseria, ma io sono bravissimo in sociale, c'ho qualcosa tira, in più. E poi tira un... E poi tira un... Che devo tirare? Ah, tu tira, fai un tiro su sociale. Che cos'è la sociale? Difficoltà è 5. I punti in negativo o positivo che fai li togli e aggiungi a un D4 e sono i 1.000 euro. Devo sempre tirare un D6, giusto? In questo gioco? Sì. Tutto si basa sui D6. Però se tu adesso qualcosa, fai 5, poi tiri un D4 e ti pigli il D4 moltiplicato per 1.000 in euro. Meno di 5 togli la migliaia o aggiungi, se fai 6, uno alle migliaia. Ah. Vabbè, ma è impossibile, mi stai facendo chiedere di fare troppo. Allora, D6, faccio io, tranquillo, abbiamo già ripreso. Non c'è nessuna fretta. D6, c'è un D6 qua? D6, uno. Ecco. Perfetto, tira un D4. No, aspetta, ma c'è qualcosa qua da fare? Cioè, c'ho qualcosa in sociale io? C'ho un più qualcosa. Ho un più due in sociale. Te lo giuro, c'ho qualcosa... Fatto, hai fatto uno davvero? No, aspetta, è vero, aveva tipo l'abilità parlantina. Perché stavo parlando, capito? Ah, vabbè, io tiro un D8, vedi, quindi questo non vale. Uno, spero che fai un altro. Ho fatto 4, quindi vaffanculo, un gioco di merda. Ora inutile. Ora tiri un D4. Allora, ritiriamo. Ho fatto 3. Cioè, dovevo fare poco, ho fatto tanto e viceversa, giusto? Ah, ti sei preso? No, va bene. Ti sei preso 2.000 euro per sta roba qua. Ma dai, buttali via. No, per la crisi che c'è oggi, soprattutto, questi bitcoin. Ecco, finalmente potresti comprarti un fisso decente. Va bene, allora, Marco non mi dice nient'altro, Luca. Allora, ok, torno a Martin Sicuro dopo l'avventura e rinizio a fare la vita normale, ma mi accorgo che non riesco a dormire la prima, la seconda notte e la cosa va avanti per una settimana. Non ci metto tanto per capire che sono rimasto traumatizzato dall'aver sterminato tipo 40 innocenti e quindi decido di partire. Ah sì, non sono innocenti. Vabbè, io penso che siano innocenti. Okay. Decido di partire. Rivedi Gava morto appena chiudi gli occhi. Come chiudo gli occhi. E quindi parto per l'Oriente. Parti per l'Oriente? Sì. Raccolgo gli ultimi soldi che avevo nei vari libretti di risparmi. Mi piace, bravo. E sì, parto per l'Oriente, vado da un guru. Senti quanto stai? Che è un monaco tibetano. Tutti questi mesi. Quindi fino alla fine, cioè fino al 12, il 12 è il giorno in cui torni. Esatto, sì. Perfetto. E niente, l'allenamento è tipo quello di Kill Bill, praticamente. E imparo la mossa delle chiusure. Ah, poi decido. Andava tutto bene, poi hai sbaccato. Era ci voleva il finale effetto. No, comunque decido di non usare più roba tipo lanciarazzi e di non essere più uno che picchia a casaccio, ma essere tipo uno che fa le cose di precisione. Devo uccidere solo la persona che va uccisa. Che direi a questo punto si adatta anche bene allo spy movie. Cioè, invece sì, di fare il picchiatutti, è più un ninja. Quindi, insomma, ti fermi in un posto e stai lì tutti i mesi con questo, esatto, maestro, tra virgolette. Esatto. Va bene. Che si accarezza sempre la barba. Hai un nome anche del maestro? Sì, se c'è chi Pai Mei. Pai Mei, esatto. Adesso arriva Tarantino e ci fa chiudere. Ma io non dovevo dire che l'avevo imparata. Vabbè, pace. Allora, io ho frenesia come disturbo mentale. Posso averlo sfogato con le pistole? Tipo, muori. Mi sono sentito sollevato in questi 5 mesi. Allora, cominciamo. Il difetto di un potere? O... No, perché ero molto nervoso quei giorni sull'isola. È perché è stressato. Ho tirato il difetto di campo di forza ed è spegnimento comunque. Cos'è spegnimento? Boh, non lo so. Spegnimento. Si spegne, direi. Ah, ok, per attivare il potere devi superare una prova di D3, altrimenti il potere si spegne subito. Per poteri della durata prolungata. O non si attiva affatto, per poteri della durata istantanea o continuata. Allora, quindi che durata ha il tuo? Dipende da se lo fa come reazione o se lo fa normalmente. Prolungata. Prolungata? Sì. Ok, allora si spegne subito, cioè tipo penso che tipo duri un turno e si spegne, una roba del genere. Fa come una reazione. Funzionerà. Però penso di sì. Vabbè, cioè, che però ci sono dei punti in cui è veramente confuso il manuale, ma però questo se non supero la prova. Sì, infatti se guardi nel loro gruppo è tipo super bombato di domande perché la gente non capisce, ma infatti io faccio un tanto al chilo comunque. Prova di difficoltà 3, ok, di controllo. Allora, jump. Ok, grazie. La mia frenesia l'ho gestita o continuo a picchiare i miei amici? No, tu continui ad avere disturbo mentale frenesia perché non hai fatto niente in questo periodo anzi l'hai alimentata un po' col poligono. Ok, ci sta. Allora, sì, intanto... Sai tipo il texano dei Simpson, andava in giro con le pistole, sparava in aria. Esatto. Intanto ti prendi un punto di rango in pistola. Bravissimo! Così ti voglio. Il tuo nickname adesso sarà pistola. Per avere un punto sono 5 punti esperienza, no? Allora ti dico subito quanti punti avevo. Se ne hai 0, sì. Io avevo 3 punti e ce ne vogliono 8. Quindi me ne dai 5, immagino. Ne vogliono 8. Eh? Che ne so, io mi sono scritto 3 punti in armi, cioè. E poi c'è scritto la parentesi, ne servono 8. No, 8, ne servono 5. No, 5, ne servono. Però il punto è che sono armi specifiche, devi avere non è pistole armi. È un'arma, fucile è un'altra arma. Tu continui ad avere i 3 punti in pistola, però hai anche un rango. Quindi tiri un D8 quando spari invece che un D6. Ok, mi piace questo tuo modo di fare. Scrivo rango. Sì. Quindi ci faccio la X sul rango. Mi piace. No, è rango 1. Scrivo rango. Ah sì, scusa, perché io ti ho detto di sì? Allora metti, perché ormai ti ignoro, metti hobby, attualità, un rango. Capisco. No, è vero, affarista, armi, maestria, armi. Ok, perché rango, che devo mettere? 1. E che ci faccio questa cosa di armi? Non si sa. Ci ammazzo la gente. Quindi tiro un D8, ma me lo scrivo. Dopodiché metti conoscenza, sopravvivenza. Non puoi dargli un rango per aver visto il mercato. E metti 2 punti abilità. Grazie a Dio. Aspetta, metti 2 punti abilità su sopravvivenza, giusto? Conoscenza e sopravvivenza. Ma sto male. Tra l'altro è una conoscenza, quindi lui sa la teoria di quello che deve fare, però no. Sì, è uguale, cioè... Non è uguale. Il mio controllo mentale è tale. Sai che devi bere la tua urina per sopravvivere, però quando ci provi ti fa troppo schifo e non ci riesci. Allora... Esattamente. Edo, allora, tu hai passato tutto il tempo a fare quello che fai normalmente, praticamente. Cioè, sì, esatto, cerco di... Sostanzialmente cerco non di dimenticarmi, però di riappropriarmi di una vita normale, praticamente. Avevi dei disturbi mentali? Come? Avevi dei disturbi mentali? Non mi sembra. Sì, fogliarmi da fuoco. Ogni notte sogni che Federico è ancora vivo, poi ti svegli e ti ricordi che è morto. Grazie a Dio. Ok. Grazie a Dio. Per un attimo. Ragazzi, è vero. E poi metti... Ecco giusto, mi sono scordato la volta scorsa perché non era il nostro... Non era la nostra campagna, la campagna degli altri. Ma io ci devo dire... Ci deve essere la scena nella campagna di noi tornati dall'isola... in un cimitero, tutti vestiti di nero con la pioggia e tutto quanto, tutti chini su una tomba vuota perché il corpo di Gava non siamo riusciti a riportarlo. E poi a un certo punto facciamo boh, pizza! Ah no, io mi aspettavo tipo che ci togliamo i vestiti così e parte la musica quella da, che ne so, tipo da show televisivo, tutte le... Allora, metti un rango, un punto rango in studio, ingegneria, quello che hai, conoscenza, ingegneria, non so cosa. Avevo messo conoscenza e meccanica. Metti un altro rango. Ok. Adesso puoi costruire le macchine a parte da... Quindi è rango 2, quindi un di 10. Oh, figo. E palestra un altro, quindi anche lì se avevi uno, va a 2. Ok. No, ancora avevi 3 punti. Palestra avevo... Aspetta. Ah sì, ok. Quindi rango 2 a punti abilità 1. Non so quante ne... Cioè 0. Ne avevo 1. 1, te ne rimane 1. Ok. Allora, è una cosa, Gianf, il 12 agosto dove sei? Se me l'hai detto tu. Sì. Va bene. Edo uguale. Sì. Va bene. Jacopo. Anche io. Allora, intanto la tua depressione, che prima era maggiore, diventa minore. Diventa suprema, conte suprema. Diventa peggiore. Era media, non maggiore. No, era media adesso. L'altra volta. Maggiore? Quando è impazzito alla fine, sì. Che ha fallito tipo 26 volte. Ah, ok. È vero, ok, va bene. Ok, e dopodiché ti prendi un rango in primo soccorso e un rango in corpo a corpo manganello, per cui solo se usi il manganello. Primo soccorso lo puoi mettere in conoscenze o hobby, ma io penso abbia più senso conoscenze. Ma una cosa, hai detto un rango in pronto soccorso, un rango in mastrazioni, cioè in, vabbè, in manganello. Manganello. Ok. Quindi i punti abilità che avevo prima rimangono, cioè Sì, aggiungo un rango, metti un ok. rango. Marco, dimmi. Ok. No, Spara. niente, avevo anche un'abilità che era raggi distanza, quella rimane due punti abilità. Ah, non esiste quell'abilità. Ho controllato. Ah, ok. Devi tirare il Non dado so perché ce l'avevo. controllo e aumentare il dado controllo. Ma per aumentare il dado controllo devi Ok. prendere, devi spendere i punti esperienza, Ok, attacco e no, non so potere. perché ce Quindi l'avevo. sì, mi sono sbagliato probabilmente. Vabbè. Marco. Spara. Allora, due ranghi in corpo a corpo. Wow. E ora hai una Io dipendenza. partivo già tipo. Avevo partito tipo 2 punti abilità in corpo a corpo, se può servire, non so. No. E tu eri dipendente dal connettore Z. Hai fatto molta fatica in questi 5 mesi a non assumerne, e questo, diciamo, ne ha risentito anche lo studio e la tua vita in generale. Certo. Alla fine, però, di questi 5 mesi, tu non sei più dipendente dal connettore Z. Però hai ancora il ricordo del connettore Z, quindi in caso di ricaduta, la ricaduta sarà peggiore. Ok. Ottimo, bene. Perfetto. Per cui non Quindi hai più dipendenza, però ok. occhio. Basta che te lo ricordiamo. Ehi, ti va di farti una bevuta di connettore Z insieme a noi stasera? Ehi, ma questo liquido sembra proprio il connettore Z, te lo ricordi, Ma ti Marco? ricordi l'odore? Mi ricordo proprio quel momento di Tra l'altro, ora imbarazzo. che ci penso, il 12 agosto, se volessimo essere tecnici, io ero in Svezia con la famiglia, quindi. Sarai ancora in Ma Svezia con la diciamo che in famiglia. questo universo, non importa. Ma puoi anche essere in Svezia con la famiglia. No, non serve, E, Luca, allora, hai fatto il tuo bellissimo viaggio. non serve. Sì. Il tuo disturbo del sonno ora è minore, quindi a volte non dormi bene, però di solito riesci a dormire senza problemi. Marco è crashata la webcam. La devi Davvero? comprare? Meglio? Sì, ora no. E Ok. ora sì. Ci sono. E dicevo, allora intanto puoi mettere un punto in conoscenza, un rango in conoscenza, puoi mettere tipo Tibet, dove sei stato tu? Tibet, sì. Sì. E anche 2 punti abilità in lingua tibetano. Però non lo parli, lo capi. No, anzi, 3 punti abilità. Lo capisci, ma non lo parli quasi per niente. La Madonna. Lo capisci perché il maestro ti bastonava se lo capivi, quindi è più sopravvivenza. Cioè, quindi conosci tipo tutte le parole per dire rincoglionito, inefficiente, non sai fare un cazzo. E le userò. Dopodiché, secondo me, puoi mettere 2 ranghi in corpo a corpo arti marziali. Ok. Però, hai un problema tu personale, tipo un, non so se esiste una condizione, non so, un tipo un disturbo mentale. Spara, te lo trovo io. Nell'utilizzo delle armi da fuoco, tipo una Sarà fobia, fobia, armi da ma non è proprio una fuoco. fobia. Però insomma, Cosa vuoi che faccia? sì, Che tipo abbia problemi ad usarli? mettiamo fobia, sì. Ok. Aspetta. Vabbè, anche perché ho fatto saltare per aria 40 persone con un lanciarazzi, quindi ci può anche stare. Quello dovrebbe Qua. fargli amare le armi da fuoco. No, diciamo che Questo è il un tuo bel viaggio punto di vista, spirituale è sì. stato fatto per evitare, cioè per dormire meglio, stare meglio con te stesso, e quindi hai un odio verso le armi da fuoco e hai un amore verso le arti marziali e la parte spirituale. E voglio anche che tu metta 3 punti abilità in conoscenze, come cazzo si mette? Tipo, non è. Come si chiamano? Tipo le cose orientali Feng Shui. sì, No, una scusa, cosa questo del era molto genere. No, non è razzista. Feng Shui, però sì, una cosa così. Era molto razzista questo, scusate. Ma è roba di meditazione, di cura, sì, di tipo meditazione, di combattimento. Ma è su... Sì, è ah, no, tipo aspetta, connessione spirituale, scusa. Una cosa del genere. Quanti mi hai detto? 3. Sì, sì, alla fine sono stato tutti i mesi là. Ok. Però, ho accumulato un però non hai sì. soldi. Ok. Zero. Spaccato. Torno sicuro con i sandali tipo Valerio. Già ho capito. Infatti io ti stavo per dire questa cosa, non ti sembra un po' troppo valeriana? Insomma, infatti il trauma non è stato piccolo, quindi... Vabbè, ci può stare. Tra l'altro vi dirò di più, l'unico che è rimasto più o meno in tempo con la laurea, anzi, si è laureato. Ti sei laureato tu l'anno scorso? O 2 anni fa? 2 anni fa ti sei laureato. Ma chi? Edo. Io 2 anni fa, sì. 2 anni fa. Allora, non si è laureato. Allora, però l'unico che è in tempo con lo studio è lui. Tutti voi... Sì, sì, infatti perso io ho tutto il semestre. No, scusa, ma Luca, ti sei laureato ben prima del... Io mi sono laureato a ottobre 2016, tu ti sei laureato prima di me. Io a luglio, sì, vabbè, 2 anni e mezzo fa. No, dico, vabbè, con la magistrale siamo indietro comunque. Sì, beh, con la magistrale non c'è dubbio, ma... Ti trutti tranne la verità, tutto. Ci sta. Cioè, tutto il semestre. Io non ho perso niente, poi... sono da pari. L'avevo già perso anche prima, quindi... Mantengo lo stile. Mi sa mai che recuperavo qualcosa. Va bene, che altro? Jacopo? Cos'è sta cosa? No, niente, è cazzato. Allora, comunque se ti interessa... Che... guardavo, con fobia, praticamente se sei vicino a un'arma o cose del genere, diventi impaurito, no, cioè... No, no. Secondo me è solo quando la usa che ha dei malus. Cioè invece che ti leggo dal manuale. Sì, cioè nel sì, senso, quando sei entro un metro dall'arma e ne sei cosciente, dall'oggetto della paura ne sei cosciente, diventi impaurito. Il soggetto può usare solo può usare azioni o movimento o risposte. No, ma non ha senso. No, no, no, lui non ha questo problema qua. È l'unica cosa che se la usa tira un D4 invece che un D6 possiamo fare, oppure comunque cioè è svantaggiata a usarlo, diciamo non gli piace usarlo. Guardo se ce n'è uno tipo così, poi te lo do. Secondo me se c'è è negli eventi di vita. Vabbè, Luca comunque ha capito cosa intendevo. Sì, sì. Quindi... già ho pensato come fare una cosa. Che cosa? Sono curioso. Gianfe, tutto a tempo debito. Ok, cercherò di attendere. Siediti sulla riva del fiume, aspetta il cadavere del tuo master. Si è preso un libro di Tao e... Esatto. E vabbè, comunque... Ah, volevo dirvi un'altra roba. Quello che, diciamo, in questi 5 mesi nessuno di voi si è documentato sugli Heroes in generale, tranne Jump. Jump. Allora Jump, sì, sì, quello che sai... Un po' lì. Dimmi tu. Forse. No, stavo soprendendo su... Vabbè, non mi interessa, comunque... Okay. Quello che sai è che... Hai letto molto degli Heroes dei poteri. Hai visto che di solito possono avvenire, cioè la manifestazione di poteri può avvenire per una mutazione genetica oppure una diversa conformazione del cervello che porta a attivare poteri psionici. E poi ci sono altri racconti di poteri derivanti invece da magie, e questo è più simile al tuo tipo di potere. Okay. E anche si dice che alcuni oggetti forniscano dei poteri a chi non li ha. Okay. L'altra cosa invece che hai visto in questi 5 mesi è che sempre meno Heroes si vedono in circolazione. E si dice che la maggior parte degli Heroes vengano tutti rinchiusi o vengano insomma uccisi, insomma il fatto è che scompaiono, quindi la gente specula sul scompare perché è morto, scompare perché è stato rinchiuso, hanno fatto esperimenti e poi ovviamente tutto questo degenera in superfobie, allarmismi e cose del genere. E quindi questo, se vuoi condividere anche con gli altri, vi fa arrivare alla conclusione che è meglio non fare tipo raggi o cose del genere in giro. Ok, la mia unica abilità. Ci sono dei complottisti che dicono che tutta questa roba sia una cosa del governo per nascondere i virus Ed è o per così. uccidere e eliminarli. Basta. Ok, e non ho conosciuto nessuno, sai, quelle storie dove intervistano quelli che vedono il UFO? Hai presente? Tipo i matti che raccontano, sì, io ho Sì, visto che hanno fatto gli ovviamente ci sono esperimenti. anche video su YouTube che dicono sì, l'alieno mi ha toccato qua, queste cose qua. Però ecco, cioè siamo ai Ed è limiti Jump, del davvero. complottismo e fanatismo. Ok. Quindi, raga, fatti chiare amicizia Di con Zanchis Franco. hai letto qualcosa? Di Zanchis ho letto qualcosa? No, nel senso No. che cioè, ci sono i soliti casi di drogati, di connettore Z, eccetera, però niente di nuovo. Cioè, ci sono comunque i Zanchis, ma non ci sono. Cioè, non ci sono novità, tipo vanno lì con lanciafiamme, li sterminano, queste cose qua. No, non esiste. E non ho scoperto niente, questa era l'unica cosa che mi incuriosiva, se si poteva, diciamo, creare un Eros. Cioè, tipo, c'erano sostanze, Allora, situazioni. O se io so allora, no, soltanto che il governo cerca di fare questo. tu in realtà non sai neanche quello. Quello lo sai perché l'avete letto nel progetto Mutate. Ok. Però ovviamente ci sono le solite voci che dicono che ci sono chi fa esperimenti sugli Heroes per poi ricrearli, controllarli e creare mutazioni o creare poteri, eccetera. L'altra cosa che sai, ovviamente, è che il connettore Z fornisce poteri temporanei a chi si fa di connettore Z. Ci sta. Ok. Marco. Marco. Ti piace il connettore? Quindi eri potentissimo. Era vero, non mai usato, sono stati solo i zombie che mi hanno Sì, attaccato sarà, stranamente. sarà. Certo, Sì, certo. giuro. Tutti innocenti, tutti innocenti. Allora, il 12 vi arriva a tutti voi una comunicazione urgente che vi dice di trovarvi in questura a Bologna per accertamenti sulla scomparsa di un certo Federico Gava. Io faccio, ma chi l'hai visto? Quindi voi vi Come trovate davanti alla questura di Bologna il 13, no, il 13 mi sa che è domenica, il 14 è festa, vi trovate il 16, il 16 Ammazza, come sei preciso. agosto 2017 davanti alla questura di Bologna. E io vado in Vita di bagno. merda. Beh. Mettiamoci d'accordo su cosa dire nel frattempo, così se ci fa Avete qualche avuto 6 mesi scherzetto. per pensare a cosa dire e in questi 6 mesi sapete che sono state fatte indagini, infatti vi hanno anche chiesto dove se l'avevate visto o cose del genere. Non è stato niente di invasivo, quindi più o meno ve la siete sempre cavata. Ok. E allora dico, no, magari era un Zeros, l'hanno preso il governo. Esperimenti. Ecco, proprio subito sick, mi sembra sensato No, cioè, nel dirlo. senso, vogliamo dire una semi-verità? Vogliamo dire che No, prima di messo. tutto Allora. dobbiamo avere ormai una versione dei fatti su cui siamo tutti d'accordo e che è Esatto. quella. Sì. Più che Che altro Gava dovremmo non lo conosciamo, sapere. che non conosciamo Gava. Chi è? Questi siamo tutti d'accordo che nessuno lo conosce qui. Più che altro dovremmo sapere che cosa sanno. Quanto sanno gli altri? Perché, per esempio, sapevano che noi siamo andati in crociera nel mare. Ma certo che no. Come fai a dirlo? È Perché mi solo sono certo. che diamo a Salla appena torna, per esempio. Perché io uso sempre dati falsi, anche per fare le carte fedeltà. Mi metto Federico invece che Gian Federico. Così posso fare la No, no, non mi sembra posso fare le che. due. Cioè, io non ci stavo quando avete cominciato quella cosa, la No, ci sei missione, iscritto con però non palestra. mi sembra che abbiamo dato Sono nomi già ripreso il falsi. movimento. Cioè, 2 mesi gratis. Allora, Giusto della per crociera sapere, non scusa. sapete niente. e cioè no, della cioè, crociera non sanno, non loro sanno niente. Niente, ma okay, è questo per certo. alimentare le fantasie di Jump, perché la crociera è affondata, ma nessuno lo sa, perché hanno insabbiato la cosa. Okay. Ah, cioè, ci come sta, se voi non foste mai andati là e nessuno, cioè non si sa, qualcuno ha sembra che qualcuno abbia insabbiato la cosa, qualcuno che però palesemente non è la questura di Bologna, perché sennò saprebbe che Gava era là. Okay. Ci sta. Domanda, noi quando era che abbiamo visto l'ultima volta in teoria? Cioè quando è che siamo partiti per andare in crociera? Tipo a febbraio? Sì, mi pare, o marzo addirittura. Vabbè, ma diciamo una verità, invece tutta la verità. Gava era molto stressato da questa vita e ha voluto farsi una bella vacanza. E la vacanza è per sé. Non lo so scritto. No, dobbiamo dire che la nostra versione era tipo... Noi a tipo febbraio abbiamo deciso di spassarcela un po', siamo andati a fare un po' un viaggio insieme così. No, abbiamo chiesto, fammi finire, abbiamo chiesto anche a Gava di venire, ma lui ha rifiutato, okay. Ha detto che aveva altri impegni, mi lasci finire, aveva altri impegni e dopo il viaggio non l'abbiamo più sentito, non abbiamo più visto e non sappiamo dire che fine abbia fatto. Non basta fare il contrario, è più facile, perché sennò dobbiamo raccontare cosa abbiamo fatto nel viaggio. Gava e abbiamo detto, Gava, vieni stasera a giocare a D&D. No, devo fare un viaggio. Eh no, perché poi dopo si chiedono agli altri, e si chiedono un attimo, scusi, ma dove erano i suoi figli quei giorni lì? Noi dobbiamo dire che non eravamo nei dintorni, altrimenti le versioni non tornano in quei giorni, o no? Esatto, ma di chi stiamo parlando? Di mamma? Se chiedono anche ai nostri genitori, per esempio, o altri, o anche altre persone a Bologna, c'è cioè altre gente. Io non esco mai. Diciamo infatti che abbiamo fatto proprio un viaggio molto alla buona, nel senso dormivamo in macchina a casa di Salla, all'altro e andati in Francia. Abbiamo fatto un giro per la Francia, esatto. Ma sì, dai, il Tour de France. Abbiamo fatto il Tour de France. Quanto siamo stati via dalla civiltà noi? In realtà civiltà, non tanto, tipo una settimana. Infatti, tipo una settimana siamo andati in giro a bazzicare per la Francia, magari siamo andati a trovare Salla e poi dopo siamo tornati qua, così. Ci sta. Abbiamo fatto quelle tragedie per il mangiare una settimana, che mica morivamo di fame una settimana senza cibo. All'ansia, troviamo le barrette, l'integrazione. Nel senso... non ci siamo fermati. No, quando stavamo nell'isola, capito? C'eravamo tutte molte ansie per il cibo. Se tu non mangi per un giorno, vedi come ti viene l'ansia, te lo dico io. A me l'ansia viene dopo mezz'ora che non mangio. No, noi semplicemente non ci siamo fermati in nessun hotel, non ci sono ricevute, ci fermevamo a prendere cibo ai baracchini per la strada. Ci sta che non vi siete tenuti le ricevute, comunque. Cioè, nel senso... Infatti, tra l'altro. Sì, cioè, voglio dire... Cazzo me... E niente, così abbiamo vissuto i nostri 25 anni al Ok, allora questo è quello che avete detto voi tempo prima. Io la metto ai voti, se va bene a tutti. Sì, va bene. Sì, quindi. Avete detto che voi 5 siete andati senza Gava. Sì. Avete detto che aveva altro da fare e non ci siamo sentiti. Quindi lui non è venuto. Non abbiamo sentito nessuno in quei giorni, praticamente. Poi dopo quando siete tornati... No, senza praticamente, letteralmente, no? Quando siete tornati, e lui non c'era già. Gava non rispondeva più, non si vedeva in giro, non si faceva sentire. Ok. Ma non ci siamo preoccupati, sono le 10 di mattina e siete davanti alla questura. Quando entrate... Questo mi fa preoccupare sulla nostra capacità di commettere un omicidio, ma andiamo avanti, scusate. Quando entrate... E, venite fatti... ci sono io quello in piazza dei giardini di Margherita, era già morto. Venite fatti accomodare in una tutto. Stanza che non è una vera e propria stanza di interrogatori, in cui potete sedervi tutti, e comunque è una stanza arredata, quindi non è tipo tipica stanza di interrogatori vuota con lo specchio eccetera eccetera. Davanti a voi ci sono due poliziotti, uno in divisa e uno no. E il quello non in divisa si presenta, gli stringe la mano, voi l'avete già visto, quindi no, non si presenta, dice semplicemente lui lo conosce. Ah, io indosso dei guanti per coprire la... Okay. Lui lo conoscete, è il... come sono? Io a forza di guardare roba americana non so più come si chiamano. È il vicequestore Mangiagalli. Aggiunto. Fumagalli, ovviamente. No, Mangiagalli. Ah, Mangiagalli, scusa. Non è un po' sospetto vedere dei guanti ad agosto? Sono guanti molto leggeri. Sono tipo guanti in pelle da motociclista, roba del genere. Sai, quelli li senza la punta delle dita. Presenta l'ispettore Forti. Forti, non sembra proprio della garbatella. No. Allora, lui, il vicequestore, indagava già su Gava, infatti è lui che vi ha interrogato la prima volta. La prima cosa che vi dice, intanto vi ringrazia, grazie di essere venuti, so che magari eravate in vacanza. Ci sono stati degli sviluppi sul caso e quindi avevo piacere di parlare con voi, che a quanto pare siete stati gli ultimi a vedere Gava vivo. Quindi, come vivo? Quindi è morto. Lo dico, come vivi? In che senso? Probabilmente è morto, perché non abbiamo sue notizie, non ci sembra... Insomma, non abbiamo il cadavere, è vero, però... Però Gava era una persona, cioè era grande, aveva una buona età, ti assicuro che si era scocciato la solita vita. Era grande. Aveva una buona età. Giusto per sapere, voi di casa Oddis, Gava è lì con voi che sta ascoltando questa... No, torno domani. No, anche. E non l'ascolterò. Forse, se non è morto. No, sono un orologio in diretta, sai, non so. Tanto non ascolterà mai Gava. No, ovviamente, no, però... Allora, magari non diciamo cose troppo carine mentre... Vabbè, è morto, cioè. Era già morto, cioè, era vivo prima, poi... Polvere alla polvere, ormai è andato, cioè. Canta il cuculo soltanto per me mentre cade la pioggia. Il poliziotto guarda Luca che fa finta di non sentirti e prosegue. Purtroppo con insomma la morte di così tante persone a Bologna di 5 mesi fa, l'indagine si è un po' arenata all'inizio e quindi in questi tipi di indagine abbiamo fatto fatica ad arrivare a conclusioni. Se non che 2 settimane fa abbiamo visto un segnale del telefono di Gava, siamo riusciti a rintracciarlo, e il suo telefono aveva in memoria un'ultima posizione GPS che portava in Kenya. Ma quello è un Windows Phone, sai che sono tutti di merda quei prodotti. C'è un GPS spallatissimo, fidati, lascia stare. È un prodotto del cazzo, lascia perdere. Quindi si vede che l'ultima volta che il cellulare si è connesso o al GPS e anche a una cella, a quanto pare, era in Kenya. Il problema... Noi però non eravamo in Kenya, o sbaglio? Siete partiti in Kenya. Aspetta, ma... Noi siamo partiti, che scusa. Io mi ricordo che giocava molto a Pokémon Go. Forse ho usato uno di quei programmini per cambiare il GPS per trovare i Pokémon rari. Non c'è Pokémon Go su Windows Phone. Oh, cazzo! No, no! Chi era su social? Era l'alibi di ferro! Magari non lo sa che non c'è. Quel telefono di merda. No, comunque c'aveva già quella Android. Confermo che non c'è. Tira su social. C'è un cavolo, vantaggio solo. Ancora una volta Microsoft ci rovina gli altri. No, questa è bellissima, ragazzi. Microsoft rovina le avventure. Esatto. Questo è bellissimo. Uccide la creatività. Hai tirato su sociale? Ma no, ma io scherzo. Tira? No, già per di tirare, è troppo bella questa. Vale la pena di finire. 7! Minchia. Quindi difficoltà 10 era, quindi qualunque cosa facevo si poteva riuscire. Si scopre che il poliziotto è un fanatico Microsoft che se la rode perché non c'è Pokémon Go. No, e comunque abbiamo controllato e c'era anche la linea e i nostri informatici assicurano che il cellulare era lì. Quali informatici? Qui sono informatici. Scherzo, questo non lo dico veramente. Sono qui c'è diventare la conversazione. E niente, quindi dicevo che abbiamo trovato questa traccia, e, però volevo dirvi che non la seguiremo. Ah, perché? Perché? Non hanno giurisdizione. Perché il caso ci è stato tolto. E quindi, beh, non stiamo a parlare di queste cose. L'unica cosa che volevo dirvi è che probabilmente continueranno a indagare su questa cosa qua, non noi, ma è facile anche che insomma non se ne saprà più nulla. Mi dispiace per il vostro. Ma chi è? Sismi? Chi è? Abbiamo avvisato. Ci lasci qualche contatto che magari se ci viene in mente qualcosa potremmo provare con loro. Io l'hanno preso le alte sfere, non so niente di tutto questo. Ho completamente capito. L'unica cosa l'abbiamo detto alle famiglie, ci tenevano anche a dirlo agli amici. E vi ho fatto venire qua per dirvi che purtroppo, insomma, volevo dirvelo di persona, non è facile che non se ne saprà più nulla. Posso tirare per grazie mille. Farmi scendere una lacrima? Cioè, voglio essere commosso. Fammi tirare, ti prego. Performance. Dunque, potete andare se volete. E mentre uscite, mi tirate tutti su riflessi. Allora. Ci si chiude una porta automatica in faccia? No. 3. Non ci accorgiamo che moriamo. Vabbè, che succede, dai. 6. Ok. 6. Gli altri due? Io 5. 1. Ottimo. Allora, Luca e Edo, vi accorgete mentre uscite anche già che sul fascicolo che hanno in mano i due tizi c'è scritto, e lo vedete tutte e due chiaramente, c'è scritto, leggete una parola di sfuggita che è Heroes, e leggete un'altra parola con tipo servizi, qualcosa del genere. Mentre lo guardate, si vede che fate un cenno a Jacopo, lui guarda verso quella direzione, vedete l'ispettore che si volta verso Jacopo, chiude il fascicolo e fa, è meglio non impicciarsi di queste cose, e anzi, a impicciarsi rischiate di far la fine del vostro amico. E poi uscite. No, cazzo, guarda, vorrei quasi dirgli guarda, io non credo che sarò punto da un altro ragno, però non lo so. Cazzo. Okay. Cioè, quindi noi usciamo dopo che uno ci dice una cosa del genere. L'ispettore, però, non il vicequestore. Il vicequestore è uscito. Andiamo. Ah, quindi il poliziotto, quello in divisa. Esatto. Ma quindi pizza? Esatto. Sushi. C'è un sushi qua vicino. Ok, vai, ditemi voi che cosa siete riusciti. Ma Fede non l'abbiamo visto noi con la mano. Salla c'ha più Salla nel gioco ci ha più contattato, oppure Void o qualcun altro in Void questi tempi? No. Io, boh, se mi avete scritto, sì. Io ti ho scritto tutti i giorni. Buongiorno, Salla, come stai? Allora potremmo fare un salto al Sanctuary per cercare di avvertire anche Salla di questa cosa. Sembra che il caso di Gava sia stato affidato a qualcuno che si occupa di Heroes, quindi potrebbero esserci alle calcagna, per così dire. Ma quindi Gava crea problemi pure da morte, incredibile. Ma una domanda, prima di andare, il poliziotto è uscito dalla stanza insieme al fascicolo, giusto? Sì. E sappiamo, cioè, si vede dove va più o meno all'interno della della stazione di polizia, della questura, della questura. E vai in un ufficio, no, non in un ufficio, in un tipo gabbiotto. Come cazzo si chiamano gli uffici quelli? Vabbè, tipo una scrivania. Ok, è piccolo, ok. Sì? Sì. E... in cui appoggio il fascicolo, eh? Dimmi. Okay. Io uscendo posso fare, cioè riesco a fare caso se ci sono tipo telecamere di sorveglianza specialmente interne e specialmente, cioè diciamo, cioè sì, telecamere di sorveglianza? Ah sì, c'è una telecamera interna, ma c'è anche, ti viene da pensare, un portiere. Cioè, sì. La questura è più o meno sempre aperta di fatto. Sì. Possiamo fare così, io distraggo, qualcuno di noi distrae il portiere tipo Gianfe. E ah, tu intanto, apri un portalino e rubi il fascicolo. Intanto siete fuori, siete in piazza Roosevelt. Lo faccio adesso. Potremmo cioè, organizzare qualcosa, però sì, ma la parlo di giorno, non è troppo una buona idea probabilmente. Però c'ha ragione pure lui. Scusami, ma se... cioè nel senso, se Edo apre un portale in questo cubicolo e prende il fascicolo, se qualcuno sta distraendo il portiere, nessuno... Speriamo che nessuno nei dintorni, nessuno vede la mano di Edoardo che prende il fascicolo. Si può farlo di grandezza di una mano, però. Sì, quale portale? Non tu non puoi fare un portale che prende il fascicolo dalla scrivania? Sì. Solo per la tua mano e per il fascicolo. Oppure puoi creare un portale. No, allora, io posso creare. Cioè, io un secondo, della... giusto per fare il punto della situazione. Voi come siete messi a mi chiedo tipo a che punto siete arrivati con le vostre abilità o una roba del genere, nel senso quali sono i vostri poteri effettivi adesso, scusate perché a che livello perso. Siete più meno. Che voglio dire, se scopriamo che tipo Gianfe ha la capacità di ricopiare i fascicoli, il potere magico di copia e incolla, magari potrebbe essere utile. Sempre gli stessi poteri. Mi diverto e faccio ingazzare gli altri. Hai anche 60 punti esperienza che non hai ancora usato. In realtà ce n'ho 80 da utilizzare adesso. Com'è possibile? C'ho 45. Guarda che non c'ho niente, c'ho soltanto due poteri. Basta. Cioè, non ho niente. Ho due poteri, finito. Livello minore. Beh, cazzo, prendi invisibilità e... Ma infatti faccio sempre così, anche nei giochi. In The Witcher c'ho tipo 10 punti da utilizzare, perché dico, ma li uso, e poi se poi mi pento... E se ma c'è la pozione di riassegnarli! Che non lo sapevo, l'ho scoperto l'altro ieri. Aspetta, ma che cosa hai comprato, scusa? Che cosa hai comprato con i punti esperienza, giusto per avere un'idea? Niente. Il secondo potere, potenza oggetti. Allora hai 90 punti esperienza da utilizzare. Quanto pare? No, sono 45 scritto. O forse ho usato per qualcos'altro. No, quanti... perché posso usare adesso, posso fare qualcosa, evoluzionista a distanza, ecco, sì, per quello. Non vi ho dato neanche lo stesso numero di punti esperienza. Ah, è vero poi, tra l'altro. Però se eravamo tutti a 110, se ne abbiamo 45, vuol dire che... Se siamo andati tutti a 110... È giusto. Se ne avevo usati solo 20, ne avevo ancora 90, ma ne ho usato 45. No, non è che ho aumentato anche 10. il dado controllo o una roba del genere. Vabbè. No, ho dato 10 per aumentare, cioè per creare, per fare l'evoluzione. Cazzo di rabbia. Cioè... era giusto per sapere. Comunque sì, tu puoi modificare. Qual è il tuo altro potere? Potenza oggetti, praticamente io do... Evoluzionista. Il secondo? Oggetti. Sono diversi. Ah, sono due cose diverse. Cool, okay. Potenza oggetti permette di creare energia quello cinetica. Praticamente non per 10 cinetica, è tipo Gambit. Ah, tipo sì. Fai la fionda con la mano. Figo. Ok, invece io, cioè, sempre gli stessi. Spegni i poteri e raggi più figo. Che è un raggio? Vabbè, io ho preso, ho i primi due medi, quindi creare spazi extradimensionali apri portali, e ho preso campo di forza. Mi piace come parlate in GDR. Ma io con l'exp di questi mesi... No, vabbè, era giusto per avere un'idea della situazione. Ok. Quindi nulla che ci potrebbe aiutare a entrare in una stazione di polizia, a parte i portali a meno che il mio piano era a meno questo. Che non mi accorgo di avere un potere particolare. Basta andare a vedere sul manuale se posso avere un potere che ci può servire. Cioè, il mio piano era questo, ripeto. Mentre Giampe fa un po' di autoriflessione, noi magari ci dirigiamo... Io ho poteri. potere. Mentre Jump pensa a come sviluppare le sue abilità facendo dell'autoanalisi e introspezione, meditando un po', noi magari ci dirigiamo al Sanctuary per fare il punto della situazione? O ci sì, va? Ci sta, sì, direi sì. Vabbè, dai. No, non può prendere niente di strambo. No, c'ho cioè controllatore, ma tecnologia. Oddio, sarebbe tamarrissimo se animasse il fascicolo per farlo uscire da solo. io mi immagino già la situazione da apprendista stregone. Esatto, con tutti i fascicoli. Tanto. No, però davvero, c'è qualcuno intorno alla scrivania? Qualcuno... Però c'è un moltiplicare. Moltiplicare può essere utilissimo in questi casi. Ormai siete usciti, può esserci chiunque. Sì, scusa, ma se lui è entrato a posare il fascicolo, cioè nel senso, lui era lì. Però poi più che altro è giorno, la questura sarà piena comunque, non penso che... Ma tra l'altro però, cioè, nel senso, telecamere, cioè... Io dovrei creare un portale da lì fuori, entrare... E poi tra l'altro... Se non ricordo male, Edo non può fare il portale nell'ufficio, se non sbaglio. Sì, l'ufficio posso farlo. L'ha visto. Quindi può farlo. Basta vederlo, non deve proprio entrarci. Uomo No, infatti io pensavo potesse farne uno più piccolo. Vabbè, niente, a posto. No, non c'è, nel senso, non posso fare un mini warp in cui metto la mano e la mano esce di là. No. Cioè, io devo passare dall'altra parte. Beh, voglio dire, scusate, ma effettivamente, se lui tipo ci mettesse una maschera, andasse, prendesse e venisse via, anche se lo vedessero, cosa possono fare? Cioè... No, può farlo. L'unica cosa che deve fare, deve attivarlo due volte. Una per andare e una per tornare. Quello sì. Vabbè, appunto fatica, ma... Vabbè. Diciamo che il problema principale è se scazzo andare, insomma. E perché il mio difetto è se il fascicolo è ancora lì. Diciamo che il mio problema principale è che... diciamo un po' in game, cioè un po' metagame, il mio difetto è casuale, cioè se io non finisco direttamente lì, sono cazzi. Quella è un'altra questione. Ma qua, se entri con la se tipo tu entri con la maschera già, corri, prendi il fascicolo, portale, via. No, in una stazione di polizia l'avevo detto. Allora, dicevo... arrivate al Sanctuary, c'è il solito barista che non vi saluta tipo buongiorno e vi ignora completamente. Hey Jack, come va Jack? Noi sappiamo come si chiama il barista, non mi ricordo più. Non l'abbiamo mai chiesto. Entrate nel... Vabbè, io lo chiamo Jack perché ormai... Entrate nel privé, si chiama Giacomo. Appunto, perfetto. Entrate nel privé. E lo trovate come l'avete lasciato. Con il lanciarazzi appeso in bella vista a mo' di trofeo, giusto? Sì. La porta l'avete riparata. Meno male. Ah sì? Apposta allora. C'è Gianfe che ha fatto evolvere qualcos'altro nella nuova porta o... Intanto non è permanente, quindi... Infatti. Il mio difetto è che non posso disattivarlo a mio piacimento. Ok. Siete tutti lì nel vostro covo? Allora, io... Potrei andare a prendere il fascicolo. Ci provo. Quindi vuoi fare avanti e indietro? Con il portale? Più che altro perché se poi lo spostano chissà dove cazzo lo ficcano. Cioè, lui me l'ha appoggiato. Quanto tempo è passato dal... Sarà passato una ventina di minuti. Cioè, avete discusso un po' farlo... mentre camminavate. Esatto, se vogliamo farlo, dovremmo farlo ora, perché in 20 minuti è probabile che il tizio sia ancora... Se te la senti di fare con avanti e indietro... Ci posso provare, la peggio... Spero di azzeccarci all'andata e al ritorno. Ma c'è difficoltà se porta qualcuno se va da solo? Oppure non cambia niente in questo caso, visto che il suo potere... No, non cambia niente. Non cambia niente. Solo che se siamo fregati in due. Ci vuole più tempo anche, perché devono passare in due e poi deve riaprire. Sì. Certo. Allora, più che altro i problemi sono due. Uno, ci vuole un travestimento, perché finché ti vedo devi cambiarti tutto, anche vestiti, perché probabilmente se guardano i video di sorveglianza lo vedono che 20 minuti prima eri vestito uguale a quello che ha rubato il fascicolo. Sì. Due, devi fare, devi pensare a cosa fare se c'è il tipo nell'ufficio e magari sta sfogliando il fascicolo, tu non puoi entrare e gli dici me lo passa prego e poi te ne vai. Beh, magari è così confuso che che cazzo. Scusa, abbiamo tipo un taser qualcosa? Prendi il lanciarazzi dietro. Merda, si prende il lanciarazzi. Oh no, c'ho lo spray. Ah, allora se vuoi no, scusa, però a parte rischia, se prendo il lanciarazzi e entro lì dentro, c'è anche mi dice. Cioè, io darei un fascicolo a uno con un lanciarazzi. Obiettivamente, c'è un tipo che ti entra da un portale con un lanciarazzi in spalla che ti chiede dammi un fascicolo. Cioè, tu cosa fai? Non glielo dai. Io a questo punto ci proverei. Io sì, ci proverei anche solo però... per poterla raccontare dopo. Che dico, ti ricordi quella sì, volta per... che abbiamo provato a... con o senza Edoardo, immagino, perché poi esatto. Forse sì. Dai, Edo, si vive una volta sola, questo è da fare. Esatto. Tanto che poi io che ti frega a te. Al massimo ovviamente sparo. Cioè, ovviamente, dai, almeno non andremo subito a mangiare la pizza dopo, cioè aspetteremo almeno qualche ora. Poi quando finiscono l'indagine su di te, cercano un nuovo fascicolo. Io mi oppongo. Perché ti opponi? Ah, perché non puoi entrare in un luogo, non puoi entrare in un luogo al chiuso, altre, mettere a repentaglio la vita, la tua vita e quella di tutti gli altri. Edoardo, potrebbe aprire un portale e tenerlo aperto per qualche minuto? Devi chiedere a lui, non a me. Non so, ti sto chiedendo a lui, potrebbe... Sì, la durata è continuata, decido io quando spegnerlo in pratica. Ok, perché se no potresti aprire un portale e uno di noi va a prendere... E che cambia? E magari uno estremamente fortunato o uno particolarmente resistente al dolore. Sì, però poi come ritorna indietro? Con lo stesso portale aperto? Portale aperto... No, no, non funziona. È bidirezionale, ok, tipo a... Ne devo fare due, quello è il problema. Ah, ok, scusami, no, era... Salva, per sicurezza, non puoi fare prima quello di ritorno? Così intanto siamo... No, devo stare lì. Devo stare lì, cioè... Per farlo. Allora, la scelta è tutta dietro, la scelta è tutta dietro, è semplice. L'unico modo per farlo è se Edo è d'accordo. Se Edo non è d'accordo, andiamo piano. Per rispondere a Luca, mi sembra ovvio che non ho intenzione di sparare. Cioè, anche sì, perché... Ma... Cioè, sì, ma è comunque pericoloso. Facciamo una cosa, mettiamo dello scotch sul grilletto, così siamo sicuri. Ho capito, a lui mancherebbe il lanciarazzi, non mancherebbe. Va bene, ragazzi. Questa volta è tua la decisione, perché sei tu a rischiare la pelle e fare quello che vuoi. Io vabbè, se vuoi ho uno spray a peperoncino come arma. Molto effetto. E uno che è minacciato da lanciarazzi si dice come può sparare, anche lui dopo ci resta secco. Comunque, no? Raga, vi dico solo che Odys adesso è Iron Fist. Che schifo. Cazzo, mi piace questa cosa. Qualcuno di voi non ha una pistola? Ogni volta finisco per diventare sempre quello che odio. Vabbè. Allora ti chiedo in prestito una pistola. Per certo, fare... come la vuoi? C'ho due semiautomatiche e un'automatica. È peggio di Iron Fist, è Iron Fist povero. È Iron Fist che ha bisogno del libretto per funzionare. Vabbè, quello. Sentry, abbiamo fatto un po' di rifornimento di munizioni, perché io non ci andate da 5 mesi. Mai, no, dai, cioè, perché è un salto. Me l'avete detto? Se proprio non diciamo, siamo andati lì due giorni e ora, non ci andiamo mai. Sì, io non gli ho detto che ho pisciato, quindi può essere che c'è un problema alla vescica in questi 5 mesi. Non so, meno di oggi. Non so se è un problema. Vabbè, speravo fosse più o meno sottinteso che ogni tanto qualcuno, non dico che vada lì a organizzarselo per il genere, ma tipo faccio un salto, prendo un caffè con Jack, vede se va tutto bene. Va bene. Vabbè, ho fatto stati, ho già la munizioni non ce l'hai. 13 colpi, 2 colpi, 5 colpi. Le munizioni tipo, non ce le hai però, Gianf. Vabbè, non è che gliene servano tante, dovrebbe usarla solo come minaccia, quindi. Ma c'ho 20 colpi in totale io, cioè 20 proiettili ce l'ho perché mi sono scritto. Ma è buon per te. E non è per Vabbè, tanto nel senso, se dovessi usare una pistola in una stazione di polizia, comunque probabilmente creperei, quindi nel senso, cioè che ci siano le munizioni o no è uguale. Tu veramente vuoi andare in una stazione di polizia con una pistola? Cioè mi sembra brutto entrarci col fucile da cecchino, cioè, nel senso... è poco educato. Esatto. Cioè, quanto meno dovrei chiedere permesso. Ho anche una tenda per due persone, ma non so. No, non credo. Quindi? Ho 2800 euro, forse è più facile corrompere una persona. No, che... non credo. È vero, io 1800 euro... 2800? Che... Sì, che cos'è? Punto Edo però è che bisogna farlo in fretta o non farlo proprio, perché tra un po' devo abbandonare l'ufficio e... Però non ho cambio, no, cioè nel senso... Non beh, prendi una pistola... Abbiamo dell'equipaggiamento. Abbiamo... C'era un elmetto da motociclista dentro qua? A me sembra ci fosse, cioè, sono convinto che ci fosse. Io non metto di Kevlar in caso, però andrebbe aggiunto qualcosa. Ah, io ho l'equipaggiamento ignifugo. E quindi copre il volto abbastanza. Che copre il volto. Arriva con la giarazzi e poi entra. Esatto. No, beh, però intanto è per fare, cioè per indossare roba diversa. Poi il volto c'è, non so. No, ma perché sono convinto che ci fosse un elmetto da motociclista tipo integrale nel rifugio? No, era della sessione scorsa che abbiamo visto. No, la sessione scorsa c'era per quello, hai ragione, scusa. Hai ragione, forse è quello, non so perché lo stavo ricollegando. Vabbè, io comunque dico la mia, anche se nessuno se la caga come sempre, e dico, Edo, per quando a me piacciono fare le cose senza senso e stupide, questa è più stupida perfino per me. Cioè, ti rendi conto che tu entra, sperare che lì non trovi nessuno. No, se trovo qualcuno, prendo le cose e me ne vado, cioè, nel senso... Esatto, cioè, tanto... Tu speri, tu vorresti materializzarti proprio davanti al fascicolo, come fosse questa scrivania, la prendi, apri il portale e te ne esci. Cioè, no, lui, sì, lui va nell'ufficio, se c'è qualcuno lo minaccia per il fascicolo e poi se ne va. Se non mi si apre il secondo portale, poi io vabbè... No, lo apri, cioè, ma... Per aprirlo si apre, poi dove vai a finire è un altro discorso, trovi, no? E trovi cavo. Vabbè, quello diciamo che sono problemi miei, nel senso dove mi ficco. Non cioè, dove... l'importante, il punto è che non finisci tipo 30 centimetri a destra nella stessa stanza, che magari potrebbe essere un problema. Però, voglio dire, mentre il mondo è grande, anche se finisci proprio, magari non proprio lì... Mentre loro parlano, io senza farmene accorgere provo a scaricare la pistola che Edoardo sta per prendere. Vai, tira addirittura. Vabbè, io mi imbacucco, cerco qualcosa da mettermi in faccia per coprirmi, non lo so, tipo, boh. Ma sono, oddio, ma ci sta qualcosa. Anche un cappello me lo metto fino in fondo e lo buco, cioè, ho fatto due. Vedete Luca che allunga la mano sulla pistola e la prende. Poi magari fa pure la risatina, tipo, ah! Esatto, è lì. No, ma non sono così ridicolo in quel senso, dai. Ormai ho questa aura giapponese, che, cioè tibetana, vabbè. Iron Fist. Vabbè, vedete Luca che prende la pistola e toglie il caricatore. Ci sta provando. E dici, vabbè, gli dico, dai Luca, dammi la mia pistola. Ma che sti fa lui? Va bene. Col caricatore, ovviamente. Va meno bene. Già, passami un altro caricatore. Ho un'altra pistola. Caccio l'altra pistola col caricatore. Io la do a Edo. Okay, e stavolta la tengo io. Gli do a Edo i miei guanti. Così almeno evitiamo eventuali impronte digitali o robe del genere. No, okay. Li bruciamo e ovviamente i polpastrelli. dai guanti al completo ignifugo addosso. Ah, alla fine si è messo il completo ignifugo. Sì, ho il completo ignifugo. Ah, ok, cioè... scusami, perdonami. Cioè, mi serve solo qualcosa per la faccia, non credo di avere qualcosa per la faccia. Ti puoi spalmare sostanze organolettiche davanti. Scusa, non c'è tipo un cappello. Avessimo ancora chi è Katta, quello che modifica. Vabbè, sì, effettivamente sì, penso di sì. Ma anche quel tipo il cascone con la visione. Ah, sì, mi sa che avevo anche il cascone, è vero. Ma sì il cascone, qualche tipo una pezza davanti che si vede sempre il cattivo di Reaper del primo. Bene, vado. Prima di andare, aspetta prima di andare, gli prendo il braccio. Sì. Dimmi. Ti devo dire una cosa. metto la mano dentro la mia toga. Sul pene. Estraggo un dong piccolino. Che? Ciliegie in fiore, un nido di cicogne dentro il fogliame. Stengo. Ah, tra l'altro vi devo dire che voi Luca lo vedete da tipo 4 giorni, ma prima non l'avete sentito per 5 mesi. È tornato tipo con i baffoni, quelli secoli sottili, così, capelli. Esatto, è tornato rasato, però con la barbettina incolta. Giustamente. Vabbè, il tuo potere di fortuna su Edo in qualche modo? No, non no. Credo. Peccato. Vai Edo. Vai Edo. Allora. Se morirai ti ricorderemo. Intanto fatemi togliere la roba della psiche, perché infatti dovresti andare insieme a cosa? Allora, ho fatto 3. Per fare cosa? Per aprire il portale all'interno della stanzina dove è il fascicolo, dove magari, pensiamo la forza di volontà andrebbe usata magari in questo tiro, se allora hai l'80% di possibilità che il fascicolo sia nello stesso punto in cui hai visto tipo 20 minuti fa. Ok, percentuale. Dai Edo, dai cazzo, riuscirà a fare 81. No, deve fare, no, aspetta, quando dici 80% deve fare meno di 80. Se ho fatto, vabbè, 10. Perfetto. Allora, vedete che Edo apre un portale, entra nel portale ed esce dallo sgabuzzino dietro. Il tuo potere è medio, no? Sì. Ok, ragazzi, diciamo che magari ci riprovo meglio. Edo, metticela tutta, noi crediamo in te. Niente, ci riprovo. Io credo in te, Edo. Non puoi fallire. Fatica. Allora. E già ne perdiamo una. Comincia anche a perdere un po' di psiche, secondo punto me. Punto fatica, una. La psiche. Vai, buttaci anche la psiche, tanto. Esatto, come si faceva a mettere la psiche? Quanta ne hai adesso? Quanta ne hai adesso? Vabbè, mo ce l'ho tutta. Senso. Ok, allora fai il tuo tiri più 6 e poi dopo devi fare una prova di psiche. Ok. Vabbè, forse non serviva, comunque ho fatto 5 più 6, 11. Ok, perdi un punto psiche. Una prova di psiche. Sì. Tiri il tuo dado mente più la psiche attuale, cioè 5. 8. Ok. Allora, esci davanti alla scrivania, il fascicolo è lì. Sì. Ok. E ci sono due agenti che ti guardano tipo impauriti. Allora gli punto la pistola, faccio proprio una cosa più veloce possibile, prendo il fascicolo e apro un portale. Vai, tira. Ci aggiungo la volontà, frega cazzi, c'è la bella. Perdi un altro punto fatica. Un altro punto fatica, okay. Diventi un pazzo. Devi fare una prova di fatica adesso, che allora, è andato, ha tirato 8, ho fatto, sì esatto, ho fatto 8 per la prova, cioè per aprire il portale. Ok. Quindi adesso vado. Devi fare una prova di psiche e una prova di fatica. Porca miseria. Allora, faccio la prova di psiche. Ho fatto 6. Vabbè, 10. Okay. Ok. Faccio la prova di fatica ed ho fatto 4. Perfetto. È superato. Vedete, si apre un portale dopo neanche 2 secondi e vedete Edo che entra correndo. Quasi e lo chiudo ovviamente appena... No, il portale si chiude dopo che sei passato. Ok, perfetto. E quasi sbatte contro il muro, ma in mano al fascicolo. Edo, porca puttana, sei un cazzo di... Però... Sei meglio del Dottor Strange, Edo. Rassicuro Luca dicendo, non ho sparato un colpo, tranquillo. Ah, visto quello con la pistola in mano. Beh, poteva andare peggio. E per festeggiare scarichi il caricatore. Sì, ah, viva il Texas. Okay. Dai cazzo, Edo, dai. Peggiamo. Grandissimo. Questa è stata... No! Ho ciclo sbagliato. Era la lista della spesa del carabinieri, cioè del poliziotto. Leggiamolo. Vabbè, sì, leggiamo. Vabbè, mi cambio, eccetera. Il fascicolo non è piccolissimo, è comunque abbastanza spesso, quindi ci dovete perdere un po' di tempo. E praticamente... tanto non è che non possiamo farci vedere troppo in giro adesso, però... Si parla delle indagini, di come sono state seguite, e da quello che capite la polizia praticamente ha interrogato la gente, e tipo i genitori, voi e altre persone che sono in contatto con lui, e non è arrivata a nessuna conclusione, tranne i genitori che gli avevano detto che era, non mi ricordo dove però, aspetta, ce l'ho scritto forse. Posso fare un piccolo appunto? Sì. A cui ho pensato adesso? Puoi fare quello che vuoi ed ormai sei un dio. Non è un po' sospetto che noi abbiamo appena sbirciato in un fascicolo e 20 minuti dopo il fascicolo scompare? E quello che c'è che devi far capire? Vabbè, ma... Cioè, il punto è questo, non penso che... Ho capito, ci hanno chiamato lì, ci hanno visto che scuriosavamo. Perché? Cioè... nel senso, se questa cosa qua effettivamente è più grande di noi, questa cosa degli Heroes, è possibile che anche qualcun altro stia cercando fascicoli e roba sì, del genere. Quello è vero, sì. È possibilissimo che pensino anche a noi, però non penso pensino solo a noi. Ma noi ce ne frega cazzi, perché sicuramente ci saranno telecamere al circuito aperto, chiuso, ci saranno delle ranger che ti hanno visto che tu eri oltre, tipo vicino a Century. E poi quindi sì, è possibile che tu in così poco tempo sei tornato e corso, quindi il tuo alibi ce l'avresti avere da qualche parte, avrai dei testimoni che potranno confermare che noi siamo i suoi testimoni, tra l'altro. Sì, quindi cioè, non è che siano... Io non posso giurare il falso, mi dispiace. Ok, comunque vai a comprare qualcosa, disse l'uomo senza morale subito, adesso col completo ignifico. Vai a derubare il supermercato. Vai a derubare il pakistano di sotto. Esatto, tecnicamente se derubo il pakistano possono incolparmi per quello e non per essere stato alla questura. Esatto. Sì. No, c'ho tre pistole, basta cambiarlo. Sì, vabbè, è molto intelligente. Allora, sì, comunque mi faccio un giro fuori, ovviamente dopo che mi sono cambiato, eccetera. Okay. Vabbè, che avendo visto il portale, probabilmente dicono, non penso che la userebbero come prova... Non si sa mai. Chiedo scusa per la mia... Oddio, mi hai pugnalato. E come quando a D&D cerco di dire, ma posso fare questo? No. Dopodiché okay. In realtà non hanno fatto nient'altro. Hanno fatto alcune indagini appunto sulle chiamate che ha fatto e sulle sue spese. Ma noi guardiamo principalmente la parte degli Heroes che avevamo intravisto dalla cosa. Cosa c'è scritto? Verso il fondo... di tutto il pacchetto c'è la pagina che era aperta prima e ci sono i resoconti di questa i resoconti di questo tecnico informatico che ha trovato il cellulare in Kenya. Ci sono anche e c'è un collegamento in cui descrivono l'evento che è successo della nave e quindi la roba strana, l'esplosione, eccetera, e quindi c'è scritto Heroes. Dopodiché c'è scritto che l'indagine passerà ai servizi, e poi vedete altre quattro pagine di questo fascicolo che sono tutte annerite, sono tutte segretate. Okay. Allora io lo prendo e faccio aspetta, metti sotto luce. Si vede. Magari col tuo potere evoluzionista potresti evolverlo in pagine non segretate. Io ci posso provare, però non credo che Sallo farà fare. No, esiste un potere che lo può fare, ma non è il tuo. No, qua c'è scritto che io creo una forma migliore dell'oggetto. La forma migliore dell'oggetto è senza righe, obiettivamente. Sì, magari la fai in lino, cioè è scritto in lino. Questo pergamena è oro. Tipo adesso è scritto in Comic Sans, adesso tu lo fai in Times New Roman e viene meglio. Esatto. Ok, e le parole che vi saltano all'occhio nelle parti segretate sono ancora servizi, Heroes, Mutate, il aia. Professore. Aia. E Gava, che lo c'è da qualche parte. Quindi non ci sono riferimenti all'agenzia governativa che si occupa del caso? Servizi. I servizi. Cioè, servizi di cosa? I servizi di pulizia? No, del... si chiamano così, come in Italia si chiamano servizi. Ah, seriamente? Questo non lo sapevo. La CIA è la sigla, ma è comunque tipo... agenzia, si intende allora i servizi segreti italiani, sarebbe... Sì, si chiamano i servizi. Servizi. Central Intelligence Agency. Non mi ricordo male. SSI. Ok. E mo? E mo niente. E mo ne sappiamo, ma non cazzo. E dopo il portale riportaglielo. Niente, siamo sprecati di... Stavo là a morire, poverello, e non è successo niente. Vabbè, niente. Comunque la prossima volta potevamo mandare un drone. Tutto questo per un pugno di dita. E... non c'è niente di utile, niente che possiamo... Zero? Questo è quello che... C'è il nome del... C'è il nome dell'esperto informatico? Sì, c'è. Potremmo... Potrebbe essere... Sì, infatti... Ah, c'è il nome del tizio incaricato della nuova investigazione? Cioè, a cui è passata l'investigazione? No. Oh, c'è scritto Federico Chiesati. provo a googolare il tecnico informatico. Allora, il tecnico informatico... Non esiste. Non è... Un ibo? Esatto, Googleabile. Non è un tecnico informatico della polizia. Ma è un professore universitario. Federico Chiesali, lo sapevo. Ti prego, di che è Federico Chiesali, il nostro professore di informatica, no, dove fa consulenza di Parma. Oh. Oh. E si chiama Franco Comi. Dio mio, stop. Questo è vale sempre Paola Mani. Franco Comi. Allora, io quindi lo googliamo, non troviamo niente. Non troviamo nessuna informazione su questo Franco Comi, niente. Sì, trovate Facebook, che è un professore. Non... che è un professore di Parma, quanto volevi. Ok, però non so se tipo c'è scritto ripetizioni private le fa. No. guardando sui siti pubblici dell'Università di Parma, eccetera, eccetera, riusciamo a trovare tipo i suoi orari di ricevimento o cose del genere? O più semplicemente il telefono. Sto per dire una cosa che dovrà essere registrata e proposta agli altri. Fatemi un tiro di hobby internet. Oh! Chi è che ha hobby internet qua? Nessuno ha hobby. Io, internet. Perché non faccio altro che cercare le cose la mattina su news. Vabbè, io ho hobby videogiochi, però include un po'... Cioè, io ho conoscenza informatica, cioè saprò come cazzo si cerca su Google, voglio ho dire. Fatto vabbè, sei, ho fatto 6. Anch'io ho informatica. Io ho fatto 6, però ho tirato un D8. Perché hai tirato un D8? Ho fatto 1. Allora, 5. Che hobby c'è? Non lo posso fare. Vabbè, allora non lo faccio. Che cazzo ne so? C'avevo scritto qualcosa io. C'è scritto attualità, mi sa. Esatto. Salla, posso chiederti un punto abilità in improvvisazione per prima? No, no. Probabilmente te avrà calcolato qualcosa perché è stato troppo epico. Vediamo. Ti do 5 punti. Quindi quanto avete fatto? Se no... 5. Ho fatto 6 col D8 e 5 col D6. Quindi... Ah no, cioè, è vero, scemo io non so scrivere, cosa cazzo cerco? Beh, scrivi su un computer, potrai scrivere. Fattezze Mostrose dice che io non so scrivere, non sì, so ma bene. Mano... Poi c'ho anche le mani deforme, non riesco a digitare sulla tastiera. Ma dai, ma ci sta, c'è cioè, Google Assistant, là, scrivi, cioè glielo dici. No, poi... prendi tipo una penna e fai... Comodo. Vabbè. E dicevo, ok, più o meno trovate tutti. Luca non ho capito se hai tirato. Prendo l'elenco telefonico e comincio a cercare il nome. Sì, non è che sei decerebrato. Faccio una preghiera. No, scherzo. Che gli hanno insegnato la pazienza cercando i nomi negli elenchi telefonici. Faccio una preghiera al no, sole. No, scherzo. Me lo ricordo come si usa il computer, ho fatto 3. Ma esiste veramente questo Franco Comi? Speriamo di no, perché se no ci fa causa. Ogni riferimento a cose fatte di persone puramente... Vabbè, comunque. E vedete che appunto lui è un professore di a diverse materie della facoltà di del corso di studi informatico. No, stai laggando di brutto. Non abbiamo capito. Ed è PD comunque, se ti interessa, Franco Comi. Sto cercando anch'io. Dicevo, non è lui. Chi è che ha fatto 6? Jump. Io gol di 8, però ho fatto 5 gol di 6, quindi consideralo tu. Niente, 5. Ma dai. Chi ha fatto 5? Io. Trova appunto che non solo che è un professore di diverse materie della facoltà di informatica in bla bla, ma anche che fa dei corsi di sicurezza informatica. E anche che collabora, quindi ci sono dei ritagli di giornale, degli articoli o dei insomma delle informazioni, si vede che collabora abbastanza spesso con la polizia. Ok. Con reparti scientifici. Troviamo i suoi orari di ricevimento in università, qualcosa del genere? Sì, trovate sia il suo orario normale, sia gli orari di ricevimento, sia dove è l'ufficio, sia tutte queste puttanate. E anche il telefono, giustamente. Cioè, il telefono d'ufficio. Quello dell'ufficio, sì, non nel cellulare di personale. A meno che lui non ce l'ha messo. Sì, però lo trovate su LinkedIn anche. Ah, ok. È per quello ti chiedevo se faceva ripetizioni cazzi e mazzi, per avere più informazioni personali. No, sicurezza informatica. No, sì, ci sta. Quindi però abbiamo questa pista. Abbiamo questa pista. Potremmo vedere se è disposto a, come dire, a informarci sulle persone con cui collabora. Magari se lo chiediamo gentilmente. Però nel senso, se lui collabora con la polizia, ah ok, in quel senso, e noi gli diciamo, cioè, come facciamo a dirgli che noi siamo entrati in possesso di queste informazioni? Ah no, di sicuro non è che possiamo andare a dirgli, siamo delle brave persone che non hanno assolutamente rubato un fascicolo della polizia, cioè. Immagino che lui sappia che queste informazioni sono segretate, cioè, lo dovremo convincere. Non dico di spezzargli le caviglie, però... Però i polsi, magari... O i peni. Va bene, anche già, perché... quello lo lascio a te, va bene. Anche perché se qualcuno pensasse di hackerargli il computer per trovare le robe, dovremmo ricordarci che è un esperto in sicurezza informatica, quindi probabilmente non avrà come password la sua data di nascita. Ma quella del suo cane. Ma la sua data di morte. Però potrebbe anche esserci una botta di culo, capito? Metti che uno fa, proviamo, e tank, entra nel sistema. Nel frattempo io controllo il computer di Sanctuary e contatto te. Chiami? Salve. Sì, cioè ti chiamo e nel frattempo controllo se nel computer ci sono dei collegamenti, delle cose nuove. Su Skype, perché non si sa dove cazzo stai, quindi non vogliamo pagare inutilmente. Pronto, rega, facciamo qualcosa stasera? Pizza! Ah, ma sei a Bologna? Eri a Bologna, no, tu so, dici? Non so, me l'ha detto. Ah, ok. Bello, cazzo, è vero. Bello, vecchio. Ma a te non ha detto niente la polizia. Ma scusa, ma noi non ci siamo parlati quando ci ha detto sto tizio di venire qua a Bologna? Ma tu non conosci Gala? Detto... No. Vabbè, ti dico tutto quello che è successo, che ci hanno contattati, che cioè, ti dico quello che ci hanno detto, eccetera. Mm-hmm. E niente, se sai novità, perché alla fine noi mi sa che durante Infinity War non ci siamo sentiti, poi... No, ma immaginate... Beh, Sala deve aver ricevuto anche lui, no? L'avviso del Sanctuary... L'allarme del Sanctuary. Però, no, so cosa è successo, pensavo voleste una vacanza. Beh, oggi siamo tornati al lavoro, sa. Beh, la vacanza la vogliamo. Tra l'altro non sento tipo Luca da 5 mesi. Neanche noi. Però è qui, vuoi salutarlo? Ti sconsiglio di sentirlo adesso, perché non è una bella cosa da fare. Al culo. Si era incarnato in un dito al culo con gli occhi a mandorle. E vabbè, quindi siete a Bologna, grande, grazie, quindi stasera non usciamo, vabbè. Adesso chiama Valerio. Non credo. Non sapesse che Edo potrebbe essere portarci lì tutti in 10 secondi. E quindi? E quindi niente. E quindi niente, hai indizi, soluzioni, operazioni da portare a termine o... per questa storia qua? Non seguite indagini, non indagate, non fate niente. E perché? È un ordine o una domanda? Non ho capito. No, che ordine? Consiglio. Chi è questo? Oh! Okay. Non consiglio. Perché è pericoloso. Io non mi invischierei in queste cose. Lo facciamo per gioco. È anche vero che è l'unica traccia che abbiamo ancora sul professore. Siamo veramente sicuri che la sua rete di... Il professore è morto. Ne siamo veramente sicuri? Siamo già rimasti ingannati... No, siamo già rimasti ingannati altre volte su questo, no? No, il professore è morto. E vabbè, ma chi se ne frega? Qualcuno potrebbe aver preso il suo impero, capito? Esatto, ci potrebbe essere qualcun altro adesso, una nuova minaccia al posto del professore. Un altro professore? Il professore associato. Il professore associato. Il tutor. Il postdoc. Esatto. Oppure ci potrebbe addirittura essere un rettore. Cos'è sta roba? Scusate, mi sono arrivato 5.000 messaggi. Dicevate? Ah no, se volete andare a interrogarlo, va bene. Se vi serve una mano, ditemi. Scusa, sì. Ma tu sai qualcosa di questi, cioè, del... Ti hanno contattato per, non so, cose sugli Heroes, cose su Gava. Esatto. Su Heroes e Gava. Io so che questo è un brutto momento per far vedere i poteri. E fino a qui. Perché so che molti Heroes sono stati uccisi. Ma si è capito perché, oppure... Cioè, sono andato senza qualcosa? Meglio non parlarne su Skype. Si sa che Microsoft... Ti chiamo su FaceTime. Ok, dove... Stai tranquillo. Va bene, allora possiamo vederci... Sì. Sì. Tipo... Tempo 5 secondi. tipo vengo io lì, mi dovete dare almeno 3 ore. Possiamo anche venire noi. Se aspetti un'oretta che Edo si riprende un secondo magari. Sì, va bene. Che bello trovarci in autostrada. Ci possiamo trovare, dove? In Sentina. È un posto un po' troppo aperto, diciamo, cioè non vorrei che ci fosse qualcuno. Puoi portarci lo vedi. A casa tua e poi dopo ci andiamo a piedi, per esempio, anche. Sì, esatto. Sì. Va bene. Va bene, allora ci vediamo a casa tua fra un'oretta. Ok, a dopo. A dopo. Ma... Ci siamo sicuri che non abbiamo appena fatto una stronzata mega galattica? Cioè che tipo prendendo il fascicolo abbiamo tipo attivato la task force contro gli Heroes a Bologna, che ora ci sta sul culo. Che bello, come se non sapessero già che c'erano Heroes a Bologna, avevano un fascicolo su Gava che è di Bologna per gli Heroes. Io penso che la task force ci fosse già. Magari adesso gli hanno dato dei rinforzi in più, ma questo non è nulla che non possiamo fare. Jacopo, appena dici questa cosa, tiro fuori di nuovo il dong. Fammi un IQ. Appena dici questa cosa, senta, io protocolli avviati, agenti che entrano ovunque. Spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada presa per evitarlo. Non è ma è con Fu Panda, però vabbè, ci sta bene. Per questo si chiama presente. Per questo si chiama presente, esatto. Ma no, dico, magari o bruciamo il fascicolo tipo lo infili in un lasciamolo anche qui. Sì, no, se no nel buco magico di Edoardo. È uscito un po' il buco magico di Edoardo. Edo il magico buco. Beh sì, allora facciamo che con calma mi riposo un attimo, poi fischiamo il portare nel buco magico e poi andiamo da Salla. In questo mi sembra che tu debba aspettare un'ora per attivare poteri diversi. Va bene, allora facciamo il fascicolo nel... Va bene. Nel simpatico spazio extradimensionale. Okay. Nel buco magico. magari facciamoci vedere anche noi in giro. In cui c'è ancora la pietra, voglio ricordarvi. Sì, sì, c'è ancora la pietra, il lanciarazzi. Vediamo, ci stia anche un fascicolo contro la pietra. Aspetta una cosa, quindi è profondo questo buco, ma il tuo potere è sempre rimasto quello, che tu puoi aprire, cioè se io nascondo una cosa qui, solo qui la posso riprendere. No. Adesso poi non posso prendere ovunque. Cosa ti pare? Sto male, mi piace questa cosa. Dai, Edo, apri il tuo buco. Aprilo bene. Ok. Aprilo tutto. Il fascicolo. Poi? Niente, poi direi che riposiamo, lo lasciamo riposare un attimino e poi dopo ci dirigiamo a San Benedetto magari. Ok, mi devi fare un bel tiro però. Cioè, sai che finiamo nel mare di San Benedetto. Cinque. Aspetta, ma noi abbiamo un'ora? Sì. Sì, sì, un'oretta. Ok. Io vado in farmacia, compro delle siringhe. Compro pure un po' delle robe tipo sostanze strane e preparo dei dardi velenosi. Da dove? Una domanda, con sì, quali soldi? No, vado anch'io che devo prendere roba per pronto soccorso. C'ho tipo 1000 euro io adesso. Allora dico, Jacopo, mi servono delle... mi serve un prestito. Sì, sì, ma tanto devo venire anch'io in... circa 7-8. Luca. E non ho capito con cosa fai il veleno. Beh, le fai, svuoti una pesca e estrai il cianuro. Tu non sai quanto... Sada, non sai quanto è pericolosa la tachipirina concentrata? Cioè... non ho capito che cosa usi per fare il veleno, però. E niente, scriviamo tipo fai le come si chiamano le frecce di creatina, la gente c'è morta. No, aspetta. Creare veleni in farmacia, creare. Le potevi, bellissimo. Veleni, la farina, tieni celiaco. Arma. Esatto. Allora, c'è tipo una c'è tipo una medicina che è tipo un collirio. Però se la inietti nel sangue, ci muori. Allora, no, io ho trovato come uccidere un animale. Buonasera, signora farmacista. Vorrei della cicuta acquatica e dell'oleandro, grazie. In polvere. Vabbè, tira su sociale, comunque sia. Ok. Sei. Ok, allora ti dà quello che vuoi. E spendete in tutto. Cosa prendi tu, Jacopo? Tipo i kit, quelli tipo sì, cerotti, garze, ste cazzate. Sì, primo soccorso. Spendete in tutto una sessantina di euro. Ammazza. Bella costosa sta farmacia. Nego io. Vuoi sostanze letali? Devi pagare. È corretto. Già uno va lì e fa: mi dia della siringa e del veleno per topi. Sì, effettivamente. Sto male. Ah, quindi 60 euro perché c'erano tipo 50 euro di pancia. Esatto. Okay. Allora, dopodiché fate un portale fino a casa tua, San Benedetto. Cioè porta d'Ascoli, non dentro casa mia, ma e invece dentro casa mia. Beh, diciamo che nel bagno di Salla, e vediamo Salla sotto la... Esatto, c'è qualcuno oltre a te dentro casa? Sì, tipo i miei. Ci sono? Ok, allora facciamo che ci teleportiamo. Possiamo andare a casa tua, Edo, e poi andare da Salla? Non so dove abita. Aspetta, scusa. Che ora è, scusa? Sono più o meno le 2. Pomeriggio? Vabbè, sì, direi sì. Allora i miei sono al mare, perfetto. Sono sicuramente a mangiare al Miramar. Sì, esatto, cioè qua è matematico, quindi a casa mia non c'è nessuno. Okay. Bisogna anche tirare perché si sa. Belli i paesini di mare. Esatto. Ci devo fare un salto quest'estate. Sì, il grande ritorno. Hai voglia. Per la laurea di Oddis. Allora. Un'altra Oddis? Che palle. Come un'altra? Come laurea Oddis? Quella in Urban Heroes. È vero, sì, no, perché hai perso il semestre, cane. Forse. Beh. E non solo uno. Dicevo, allora, siete a casa, poi mi raggiungete. Ci sì. Andiamo, vi porto in sentina, cioè andiamo in sentina, perché non mm-hmm. c'è nessuno e possiamo controllare meglio la cosa. Praticamente siamo in un posto tipo casetta del bird watching per vedere gli uccelli. Ok, ok, sì. E non c'è nessun altro. Va bene. D'accordo, quindi cos'è che mi... Ah, volevate che vi parlassi di questa storia qua. Sì. E da quello che so, da quello che ho capito, non è un buon periodo per gli heroes. E, diciamo che la maggior parte degli heroes vengono catturati e diciamo quelli più utili vengono, da quello che ho capito, vengono utilizzati per esperimenti oppure anche come risorse e gli altri vengono uccisi. Ma i coglioni. Voi diciamo, qualche idea di chi ci sia dietro a tutto siamo questo? Messi, so. Da quello che ho capito, siamo messi a livelli della guerra fredda, quindi tutte le società di intelligence cercano di assicurarsi le risorse migliori e di distruggere la concorrenza e utilizzano gli heroes per raggiungere obiettivi che normalmente non riuscirebbero ad avere, per esempio le abilità di Edo sarebbero molto utilizzati, mentre uno Jacopo potrebbe essere ucciso. Perché? Jacopo, perché tu un spari... raggio non è molto, non sei è molto utile. Non sei uccidi prima tu, no? D'altronde. Esatto, non si li vedo per prima quello io. I casi sono due, cioè la cosa migliore secondo me è non immischiarci. Quindi consigli di volare basso per il momento e non fare niente. Non lo so, se avete paura che vi abbiano scoperto... Stai dicendo che siamo godardi. Cercate di togliere questa informazione, quindi di eliminare tutte le persone che ne sono al corrente, oppure fate finta di nulla e sperate. Io ti chiedo come stanno reagendo gli altri, ovvero... Vez, Arci, Catta, non lo so, Giulio. Non ho più notizie di loro dopo quella storia, non si fidano più di me. Ah, ok. Perché? Io non lo so. Vabbè, perché no, aspetta, quello era Void. Infatti, perché non gli ho detto di Void. Ah, e cos'è che non gli hai detto di Void? Che lavorava con voi e con me. Ah, perché hai qualche modo no, loro... di contattare Void? Magari lui sa qualcosa di più. Void è morto. No, lui non sa niente. Void è morto? Void è morto? O è stato catturato, insomma, una di queste due. E questo quando è accaduto questo? Beh, tipo un paio di mesi fa. Ah. Quindi il nickname è libero adesso. È la prima cosa che ho pensato. Ma tipo Batman, no? Ok, prendi il costume. Cosa ti ho detto l'ultima volta che l'hai sentito? Cosa doveva fare e dove doveva andare? Non lo sai? Non lo so, dopo che abbiamo ucciso il professore lui è andato per la sua strada e quindi non abbiamo continuato a raccogliere informazioni o a sondare il terreno e basta, però dopo l'ho perso di vista, sono abbastanza sicuro che l'abbiamo preso. E vabbè, ma è Void, ti aspettavi, ovvio che non ritornava niente. Scusate, non dico più niente, sto zitto. Ci sei arrivato al preso, insomma, vedete, non ho capito voi. Che non ritornava niente, ovviamente. Ovvio che non ritornavo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare ora è vivere le nostre vivere e lasciar morire. Sì, vi consiglio di restare uniti e non facciamo, cioè di non facciamo cagate, insomma, se uno di noi vede qualcosa di strano lo dica agli altri. Posso proporre un finale per la sessione? No. Tipo che tutti quanti ci giriamo, guardiamo la sentina e c'è Valerio in mutande che vola tipo in mezzo ai fenicotteri. No, si crede che sarebbe notevole. Sarebbe... Ok. Quindi per il momento non possiamo fare più niente. No, direi di non fare niente. E appena lo dico, sono tutti i vostri cellulari che suonano, e anche il mio. Ah. Quando andate a guardare lo schermo, lo schermo è nero, tranne Odis che ha Windows, non gli è arrivato il caso. Però sono regredito, ho il Nokia, ho i Nokia quelli vecchi, tipo. No, ho ripreso... a tutti, anche a Luca con quel cellulare imbarazzante si ritrova. Vedete che lo schermo è nero e c'è solo una scritta che appare tipo col carattere da terminale che dice: so cosa avete fatto. E così finisce la sessione, la prima sessione della seconda stagione. Ed è Valerio, dan, comunque. Dan, Valerio sulla scuola. Perché Valerio vola? Non l'ho capito. Luca, che... sei stato in Tibet, che figo. Non l'ho capita questa di Valerio che vola. No, la cosa random, perché sono i fenicotteri sulla sentina, quindi... Ah, semplicemente per quello, no, pensavo fosse un riferimento a qualcosa. Ah. Però Valerio ha le ali. Oh mio Dio. E invece no, sarebbe fighissimo, ti prego, fallo cadere. Ha le ali, ma le gambe anche lunghissime, tipo fenicottero. Sembra, ma Valerio, uno un Iros. Sembra uno di quelli di Robin Hood del cartone, quando corre. tipo... Sì, ho capito. Quindi concluderei questo streaming. Va bene, che non c'è. Con un haiku. Dai. Senso di colpa. Nel mio sonno pomeridiano, il canto dei piantatori di riso. Sting. Buona serata. Va bene, noi vi salutiamo. Grazie per averci seguito. RIP GDR. Ciao a tutti. Ciao.